110. 110. Chi è avanti? Ciao Natale Roberto. Ciao Roberto, buonasera. Va bene questo microfono? Sì, sì, va benissimo. Ma con cosa mi stai ascoltando? Con l'altoparlante esterno o con quello dell'apparato? Con quello dell'apparato, non è più di quelli. Va bene, ma uno può avere anche un altoparlante per ascoltare. No, no, con quello dell'apparato. Se la metto un attimino l'altro microfono, mi dici cosa noti di differenza, almeno per quello che puoi sentire col baracchino, con l'altoparlante del baracchino. Ehi, vai. Natale, memorizza questa modulazione, 1, 2, 3, prova, prova radio, canale 10. Ripeti che mi ero allontanato. Allora, questa è una modulazione, 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27, 0, 75, questo è un microfono. Senti un po', adesso provo l'altro, un secondo e lo rimettiamo. Attento, canale 10, 27, 0, 75, cosa noti di differenza? Questo è più basso il microfono, l'altro è più alto. E tonalità cosa cambia? Niente, bellissime radio tutte e due. È solo un due, questo vabbè lo posso sollevare un po', guarda adesso lo sto sollevando un pochettino, un po' più alto. Va benissimo. È chiara come quell'altro. No, le voglio fare allo stesso livello una con l'altra. Raga, così e sono uguali. Ok, e beh, cosa è conveniente Natale? Ehi, cosa è conveniente? Qua me ne sono alzato, poco fa mi ha acceso la stufa, no, sto tanto bene, no? Ancora non sei guarito? Oh. Anche io ho ancora qualche sintomo di cosa. Stamattina sono uscito, no, ieri si stava bene, cacchio, ti posso dire, ieri sera quando sono uscito c'era caldo, c'era vento da sud. Oggi stamattina aveva un maestrale di quelli, cacchio, poche volte l'ho visto, ma forte, in Piazza d'Italia, sperato che c'era quel mercatino delle cose antiche che fanno sempre, ma un vento spaventoso, infatti me ne sono andato via subito. Infatti. Anche io sono uscito, siamo andati a farci un giro con Gianni stamattina, però che era un vento, che mamma mia. Oggi hanno viaggiato bene quelli che erano in nave, anzi ieri notte, perché c'era il maestrale con raffiche di 60 km orari, cioè vento forte, figurati in mare cosa era. Sì, siamo stati a Platamo, ma era agitatissimo. Me lo immagino, infatti sarà stato in burrasco. Sì, infatti, mamma mia. Certo che a largo avranno ballato di brutto. E appena Natali cosa ti sei messo? C'è la mantova, cosa mi hai detto? Non me lo ricordo. No, una tipo la BA27L con tre radiali, piccolina, una 5 ottavi, però è bassa. Ma cacchio Natali, considerando se sei dove mi hai detto, stai uscendo alla grande, sei quasi 9 più 20, i picchi arrivano a 9 più 20, segnale. Sto uscendo con un watt perché disturbo, se alzo poco a poco guai. Sto usando il Magnum HB45 col microfono suo, normale. E adesso ho sentito qualcuno basso sotto, avanti che volete adesso 10? Ho detto, ho sentito, ciao Roberto, mi ascolti, però non ho capito chi sei perché sei in mezzo al QRM, cioè il QRM è molto alto oggi, c'è un po' di disturbo, però se vuoi ripetere più lentamente il nome. Cacchio, no, ho sentito Martino, una cosa del genere, ripeti piano, c'è troppo disturbato. Ah, Mondino, sì, e come sei così basso Mondino? Mondino, ti ascolto, Santiago, sì, c'è il QRM a 6 oggi, molto, se riesci a fare qualcosa, se no non riesco a capire quello che stai dicendo, comunque, sentito, penso che tu riesci a ascoltarmi un po' meglio, confermi. Ho capito soltanto l'ultimo pezzettino, non ti sento bene. Natalino non credo che ti senta, ti senterà ancora peggio di me. Natalino, ascolti a Mondino. No, negativo, mi dispiace. Purtroppo c'è il QRM molto alto, lui come parla se ne porta presso un pezzo di QRM, Mondi. Ma io ti ascoltavo Santiago 8-9 nei tempi passati, Mondi. Non capisco, hai fatto qualcosa all'antenna o non lo so, non ti capisco, dai. Scusami Mondi se non riesco a sentirti, dai, cerca di sistemarti un po' la situazione perché non riesco a sentire, non c'è neanche Claudio per far da ponte, che magari lui ti ascoltava un po' meglio. Ok, facciamo riprendere Natalia, Natalia avanti. Capo, salutalo da parte mia. Ciao Marco, no Mondi, tanti saluti da Natalino, non so se lo ascolti ma penso di no. Marco, tu l'hai ascoltato a Mondi? Oh, cos'è questo? Scusate, no, zero totale, scusate, mi sono lanciato così. Bene, ma Claudio che fine ha fatto? Non è entrato più. Adesso si sta godendo la pensione, adesso lui te lo trovi in qualche spiaggia dei Caraibi, sarà sicuramente. fino a da lì, così ci è arrivato uno di quelli antennini, quelli da 14 cm UHF. L'ho pensato dentro casa con una piastra di metallo, sarebbe la stufa, a me, una piastra di 40x40, apparentemente c'era un E4, un E5 in VST, un E7, un E8, un E7 in PMS, dentro casa, quindi immagino che sulla macchina vadano bene. Purtroppo non avevo lo spinotto adatto, potevo misurare il stazionario, lo sto tenendo i fili, quasi fili volanti, dai, lo sto tenendo a mano, un collegamento. Ti dico solo che messo sulla macchina, sotto casa, sono arrivato a Luca Flipper, Luca Flipper era dentro casa col gommino, sono arrivato chiaro chiaro Luca Flipper. Quindi per te è ottimale, l'hai detto, lo volevi discreto, ti mando la foto. Ehi, vabbè, no problem. Marco, chi c'è avanti? Mi sta mandando la foto. Chi sei avanti? Chi sei avanti? Parla, non ti capisco quello che dici. Boh, non sei tu, Mondi, chi è questo che è entrato adesso che ha chiamato? Boh, se vuoi entrare siamo qua comunque. Avanti, se vuoi entrare sono rimando il mic a Natalino. Natalino ogni tanto ti bala. Come va questo mic, Marco? Come va? Bene, direi. Con cosa mi stai ascoltando tu? Altoparlante esterno o con quello dell'apparato? Apparato, Superstar 2009. Ah vabbè, no, volevo avere una cosa più fedele, magari. Ega, non so che mic sia, ma sembra la tua moderazione solita più o meno, non è che cambi radicalmente. Ehi, un attimino che mando un messaggio a Natalino, dai. Ehi, ehi, ehi. Insomma, questo canale sta morendo, dai. Io sto sempre lavorando in casa questi giorni, quindi oggi era giorno di riposo. Stiamo facendo mega ripulisti, buttando roba vecchia, stufe vecchie, microonde rotte. E insomma, anziché le pulizie, come si dice? Pulizie d'inverno stiamo facendo. Io mi sto azzuffando adesso con una di queste cacche di stufe a liquido, cioè adesso mi dice oil, che manca il liquido, buh, ho guardato nelle istruzioni, sta sempre andando, mi pare c'ho 7 anni, sempre andando, allora l'ha già presa, mi dice che manca il carburante, dice provare a controllare se c'è umidità, controllare il filtro, chiudere bene il passaggio, ho provato tutto, stava andando, l'ho fatto andare, va se tu l'ha da a spegnere, riproviamo un attimino, scusami un attimino, rifaccio una prova. Ma che stufa? Ma Zibro, cherosene? Quelle Zibro elettroniche, quelle stufe che vengono a Brito. Sì, sì. No, io ce l'ho Zibro, ma non è di quelle elettroniche piezolette, che di quelle proprio che ha la fiamma viva e lo specchio riflettente. Ho capito, no, queste sono quelle, ce l'ho già da un po' di anni, ma è sempre andata benissimo, cazzo, adesso l'ho provata e mi appare il bip oil. Ho guardato le istruzioni, man mano che le ho trovate dice può essere che c'è umidità, che c'è qualcosa che non è chiuso bene il serbatoio, siccome funziona a incastro. Dopo che fa l'ho spinto, gliel'ho mandato bene le partite, va, ha fatto di nuovo il bip e si è spenta. Il ricontrollo, ve lo vedo che è successo. Scusatemi un attimo. Ehi, ehia, va bene, dov'è? Chi altro c'è qua? Chi vuole entrare? Nessuno c'è, stamattina con Gianni ci abbiamo fatto un giro e c'era, siamo andati dove c'è la tua fidanzata, tutta bella messa bene, sarà la baracca. Ma le hanno coperto la benzina? Eia, qualcosa trasparente addirittura, nylon trasparente. Eia, ma non se ne va più da lì, è uno schifo, dai, in estate è uno schifo. Vabbè che è tutto neri. Non per dire, ma è schifo da una parte, schifo dall'altra. E beh, come dice Trantegnino. Quindi ripeto, apparentemente, poi te l'ho detto, sotto casa, ho messo quello, ho chiamato, ma è stato Luca da dentro casa col gommino e gli arrivavo bene. Non so se mi spiego. E infatti, vuol dire che già vanno bene. Allora ricorda, questo è il primo tipo, da 14 cm, quella che avevo già preannunciato. È arrivato stranamente, è arrivato abbastanza in fretta, eh. È abbastanza in fretta. Poi cioè tra l'altro tipo da 19 cm e costava 2 euro, meno di 2,50 euro, uno scandalo. Anche quello sarà da vedere. Comunque devo comprarmi un po' di spinotti, adattatori, perché guarda, appena posso vado a Fusaro, mi prendo degli adattatori, perché ne ho bisogno, se no non posso misurare gli stazionari e di antenne. Infatti, perché hanno quell'attacco là. Oh, una domanda, cambiando discorso. Le LPD, che frequenza è quella che stanno utilizzando adesso per parlare? Cos'è, canale 8? Dove vanno? BMR, sì, c'è gente anche adesso. 4460, mi viene un voto di memoria. Aspettate, la cerco, Allora. 446,08125, 446,08125, se non hai fatto 625 metti 446,080, come faccio lo IESU e lo metti lo stesso. C'è gente adesso, no, voglio fare una prova con l'ICOM, con l'ICR 7000, se li becco. Ehi, la fai con me, vai a 433075. E non c'è 433075. Canale 1 LPD. Però scusate, io sono senza radio adesso. No, la vado a prendere, prendo il Midland. No, io volevo, non posso trasmettere, volevo ascoltare, volevo se c'è qualcuno. In questo momento c'è gente a 4.46. Eia. Aspetta che accendo un attimo, scusa. Vabbè, ho parlato io, in PMR. Oh, chi è che ha parlato? Tu Marco hai parlato. Che frequenza sì? 4.46.081 infatti. Eia, manda a vedere se arrivo, prendi una portante. No, non ne ho io di cosa, sto solo ascoltando. Ehi, ma mandamelo in 27, prendi la portante da 27. Oh Marco, no, c'ho le antenne una attaccata all'altro, come schiaccio quello ti abbassa il segnale. Guarda, mi affaccio alla finestra, non ti mio e mi affaccio, Solo che ho occupato lì. Facciamo così. LPD 433075. Ma non sei tu? 433075 hai detto? Ehi, il canale che ti ho detto io prima, che è la nostra monitor. Ma sta parlando qualcuno? Hanno suonato. Allora vai 433075. Che antenne hai per ricevere? No, un'antenna c'è una di quelle multibanda che fa da 200 a 1300 mi sembra. Ci sei 433075. Ti sento molto basso però. Allora io l'ascolto molto meglio. Però se avete segnali in Santiago 4, mi è molto basso. Chi è questo? Claudio, ma tu sì? Oh, vi sto ascoltando con quell'antenna multibanda. Claudio già arriva forte, però dovrei mettere un'antenna dedicata, perché il segnale Claudio, considerando che è vicino, era 9.10. No, a me non mi hai sentito, non lo vedi. Come? A me mi hai sentito. A te basso. Però c'è una cosa, Robert, se ti arriva a 9.10, Claudio, no, stai dicendo troppo basso. Non lo so dove hai le antenne, se sul tetto o dove. Lui ti deve arrivare in fondo scala, E di conseguenza tutti gli altri arrivano. Per esempio io da Claudio arrivo, ma non ne faccio il fondo scala. Allora, c'è da dire una cosa, che forse magari meglio che lo ripeta. Allora, sul ricevitore, questo qua è un larga banda, purtroppo le stazioni private attengono tantissimi segnali di questa banda di frequenza, perché io ti ricevo segnali dalla Corsica, di radio dalla Corsica, proprio, vedete, c'è una sensibilità a questo ricevitore che è spettacolare. Purtroppo ci vuole un filtro per eliminare la banda broadcasting, 8808, per ricevere bene con voi, a meno che non gli metti un'antenna dedicata, che ce l'ho sugli altri apparati. Dovrei staccarla, io sto usando una multibanda che fa, mi pare, da 100 a 1300 di quelle antenne multibanda, per cui quello ti prende tutta la sporcizia. Sì, questi film 8808 professionali, leggermente professionali, ci sono proprio per eliminare quella fetta. Sì, certo che li fanno, assolutamente. Tutti gli SWL di un certo pregio ce li hanno questi apparati, ma non costano neanche molto, me li vendono. Non so se la GBC ce li ha pronti, ma un periodo ce li aveva. Perché io ho avuto, da Fusaro avevo preso un filtro 8808, che aveva attacchi BNC, ma mi introduceva troppe perdite, troppe, no? Poi era proprio terra, ci vuole qualcosa di più. no? Bipanda, no? Monopanda, sì che ce l'ho, meglio l'ICR 7000, deve andare sull'ICR 9000 della ICOM, o l'ultimo che hanno fatto, allora era uno dei migliori in assoluto come apparato di ricezione, è spettacolare, questo ricevo tutto. Poi c'ho gli apparati dedicati per le bande marine, per le bande U, per le V, per tutto ciò, per ogni cosa. Però adesso volevo provarlo con l'ICOM, a vedere come andava. Eia, no, sai perché di solito i bande veicolari no? Non prendono disturbi dall'88 108. Almeno io ho l'8008 e non ne prende. Prende solo quello che c'è sul canale. Perché là quello che sta andando solo per lì, capito, non è la regattante, eccetera. Va bene, dai, Natalino ci sei. Eia. No, già ce li ho Marco quelli lì, però adesso volevo fare una prova col ricevitore grosso, vedere un pochettino con l'antenna. Questo vabbè, filtri su con le bande lì, non ha, questo è tutto aperto, prende tutto. Ti prende dei segnali, ti sto dicendo, c'è una radio che trasmette da Iaccio, che con l'altro ricevitore non riusciva ad agganciarlo neanche se ti ammazzavi, con l'altro la R3000, niente. Questo poco a poco, mettendo l'attenuatore, riesce a tirarla fuori. E poi una radio che trasmette da Oristano, lo stesso aggancio qua. Eia. Ricordo, addirittura il CR 9000, me lo ricordo, costava, era il top del top, 27.000 era il top, mi pare che costasse roba di 11 milioni di lire o più di lì 9.000, o sto sbagliando io, costava tantissimo, tantissimo, ma ti sto parlando di anni 90, no, primi anni 90, va. Sono soddisfatto, dai. Ega, sì, stavo usando Midland G9 per parlare. Midland G9, dai. E tu, no, Natalino, glielo chiedo che non voglia dire. Natalino, oia. Mi devi dire una cosa. Tu l'hai mai provato quello giallo-arancio in macchina con l'antenna dovuta? No, con l'antenna dovuta no. L'ho usato col gommino. No, perché qualcuno sul forum ha detto che quello lì, come metti antenne esterne, esterne, cioè antenna sul tetto, antenna veicolare, viene silenziato, cioè viene assordato, proprio si attira l'abbattimento di fa. Però quella è una cosa che ha detto una persona. Non lo so, mentre l'UV5R Plus, quello che ho io, quello li puoi mettere l'antenna sul tetto, li puoi mettere l'antenna veicolare anche alto guadagno, non si assorba, riceve sempre. È tutto lì, volevo sapere questo, va? Quindi non l'hai provato, ok. Ma io l'ho provato con l'antenna esterna e non gli fa nessun abbattimento. Ma in macchina? No, qua a casa, che è peggio. Ma sai, lì è chiuso, molto chiuso, molto in basso, bisogna andare in zone aperte, magari ci può essere abbattimento da magari FM, cellulari, che ne so io, frequenze TV. Lì no, fa testo la prova. Io una volta ho fatto vedere a Gianniro Pirum la differenza tra il ricevitore e un certo apparato di cui non ricordo il nome, pare un DYT UF9, mette ricevitore e ricevo tutti, no? Era la radioamatori, era. Metto questo apparato con antenna veicolare, boom, zero, veniva completamente assordato. Eravamo sei dove? A San Francesco, dove c'erano quei gradini. Quel portatile bipanda veniva completamente assordato dall'antenna esterna. Potevi usare solo il gomito. Mentre l'UV5R questo non lo fa, non viene assordato, bisognerebbe provare il tuo in campo aperto. Infatti un giorno, quando ti do questo antenino piccolo, no? Facciamo le prove con l'antenna mia, portiamo il tuo e il mio e proviamo a attaccare l'antenna a vedere se viene assordato, ok? Cioè facciamo bene le prove, capito? Ci facciamo così. Vai Roberto. E tu che ricevitore utilizzi, Marco? Guarda, io avevo, per la crepe avevo quelli, mannaggia, come si chiama, Texon PLC 70 per la crepe, lo vedo. della Uniden, però che fa salti, no? 60, sì, 88, 108, c'è la banda aerea, poi fa 136, 184, non è un grande, praticamente è un apparato che puoi usare sia da tavolo che veicolare, ti danno tutti gli accessori, puoi usarlo da tavolo o veicolare. Addirittura ti danno un antennino da mettere al vetro, se non vuoi mettere anche all'esterno, ma visto che è solo ricevitore, il problema non c'è. Si chiama, magari te lo guardi su internet, allora Uniden, beh, dov'è il modello? Guarda, UBC355CLP, UBC355CLP, è una scannerino così, proprio roba da mezza, dai. Ho capito, no, vabbè. Io il primo che avevo era la R2000, quello tipo portatile, tipo walkie-talkie, discreto, niente di particolare. Poi mi ho preso la R3000 che ce l'ho ancora, discreto, ma sono sempre giocato, li confronto all'ICR7000, l'ICR7000 è una cosa spettacolare. Tieni presente che l'ICR7000 è quasi uguale identico come prestazioni all'ICR9000, detto da Bianconi, perché io volevo prendermi il 9000, lui me l'ha dato Bianconi il 7000, io ne avevo uno in riparazione, c'aveva dei problemi importanti, alla fine mi ha detto guarda, ne ho ritirato uno in scatola, ho detto ma è un 9000, ho detto guarda, 9000 c'è più l'analizzatore di spettro, ma a livello di prestazioni siamo quasi uguali, costava una esorbità, come hai detto tu, dai 10 agli 11 milioni, perché era in lire, ecco lì costava sui 5 milioni il coso, l'ICR7000, la metà, più o meno la metà, ho detto guarda, come apparati sono quasi identici, i 9000 c'ha un po' più di memoria e basta, come selettività sono simili, ma a livello strumentale te ne accorgi, ma a livello uso quotidiano non te ne accorgi neanche. Oh, mi è arrivato un messaggio, scusate un attimino e vi riprendo subito. Eia, io ho scannerini, no? Poi io amo, vabbè, dopo te lo dico, avanti può comare. Io ce l'avevo l'ICR 7000. Canale di Natale. Anche qua devo. Ma tutto vende, tutto ha rivenduto. Ehi, allora ho venduto a Claudio l'ICR 7000. Ehi. Poi hai avuto l'RZ1, così è. Ehi. Guarda, quello quando è uscito mi piaceva tantissimo, da morire mi piaceva, solo che io ero ragazzino, non ne avevo soldi, non avevo soldi, costava anche un po'. Quanto costava, te lo ricordi, la ricetta 1? No, non me lo ricordo. Era bello perché potevi ascoltare la polizia, quando ce l'avevo io li ascoltavo chiari chiari. Te l'ho detto, Natalia, quella era l'età dell'oro. In chiaro era tutto ascoltato, anche i telefoni ne ascoltavo, adesso non ascolti più nulla, ma anche i radiomatori sono passati tutti in digitale, Beh, tutti no, dai. Ma proprio non ascolti più nulla. Vabbè, Roberto, posso? Sì, arrivi, ma. Dicevo che io ho sempre avuto ricevitorini così, avevo VR500 sempre portatilini, ma eccetera, troppe interferenze. Qua naturalmente ho quel Uniden tavolo Antina, piccolino, è uno portatile, Uniden portatile. Pare sia il 92, UBC 92 XLT. Ma sai perché? Perché io non c'ho posto per antenne esterne, proprio sul tetto. Mi piace molto l'ascolto mobile, quindi a portate le mobile. Oppure qui, vabbè, adesso c'ho un antennino esterno, se no c'ho un antennino del PMR, del terrazzino, capito? Proprio per il PMR però, è solo VHF, non VHF. Un po' la riceve, ma non è il massimo. Più che altro mi interessa la fonia NFM, nemmeno la CS. Quando avevo il quadribanda l'857, gli aeggio l'ho venduto, non lo usavo più, era sempre nella scatola. Mi ha tutto chiedisso quasi di provare a dare la patente radiatore, poi sono rinsavito e lasciato per adesso. Io sono un grande ascoltone, dai, mi piace ascoltare tutto, da tutte le parti, di tutti i generi, dalle bande quelle infrarosse fino alle bande, cosa, come si chiama, microonde. Sì, poi ci sono, in realtà per non annoiarci ci sono tanti modi da ascoltare, anche reti qua e roba, non lo so, a me piace solo la fonica mia, alla fine, perché sennò bisogna interfacciare il ricevitore al computer per, che ne so, per il doppio, reti qua, è un po' difficile. Per esempio, quello che non prenderei mai è un ricevitore da interfacciare il computer, perché poi devi dipendere dal computer per le varie funzioni o per avere un computer da remoto. No? Io sono un ascoltore cipitone, e mi sto ascoltando tutta roba che non avrei dovuto ascoltare. Abusivo! Pirata, brigantino invece, come dice Stefano. Ehi, guarda, sta così bene senza via via qua, seconda bacchetta, con la cosa che c'è io, però, seconda bacchetta, oggi per me è un giorno di pace. Guarda, non vedo che finisca questa storia, perché ne ho le scatole piene, guarda. Assassina. Ai lavori forzati ti mette quella. Sì, no, anche perché io sono sempre mal di schiena, lei non gliene frega niente se stai male, devi contribuire, capito, mentre la posso. Io il giorno che mi chiedo, dico, beh, io non mi sento bene, se mi parlo bene, se no, ciao. E ti fai i ricatti anche, capito, ti fai piccoli ricatti morali. Vabbè, lasciamo stare, adesso non voglio entrare nel merito. Natale ti mando un altro posto della macchina, che ovviamente dovrai mettere in orizzontale lo smart, poi ingrandire la cappotta per farti vedere appunto più piccolino rispetto a tutta la cappotta, costante. Guarda, più piccoli così non li trovi, te la sicuro. Tu lo volevi discreto, questo è più discreto. Già l'ho vista, già. No, rispetto alla cappotta no, dai. Comunque non è sottile quanto credo io, perché quello da 50 cm è sottile, è più sottile. Siamo nell'ordine di un millimetro di ferro, questo sarà un millimetro e mezzo. Capito? Però è sempre sottile comunque, buono, pedino veramente. Poi se le stazionali sono come dico io, è di lusso, dai. Vai Roberto. Sì, Roberto si deve essere allontanato. No, scusate un attimino, la società mandò questa stufa, mi dà dei problemi, era tutta accesa, adesso si è rispetta. Datemi qualche minuto, riprendo, dai. Continuate voi. Tira di un calcio. Tira di un calcio. Comunque ricordati Natale, questo è un quarto d'onda, viste le dimensioni, un quarto d'onda water, quindi è come avere l'antennino del portatile, è come avere l'antennino messo su quanta posta, l'antennino del portatile. Non renderà mai come una 5-8, ovviamente, né come una 2x5 e via dicendo, però fa il suo sporco lavoro di un quarto d'onda, capito? E quindi è buono, tutto il freccio aiuta. Se io ero 35, ma poi io sono rimasto adibito dall'alza, 2 euro di quei 40, meno di 2,50 euro, un attimino, ma è visto, speriamo che funzioni magari. E speriamo di sì. Allora, voi mi devi dire, il tuo arancione giallino, adesso non ricordo se più arancione o più giallo, che attacco ha? Se tu svitta l'antenna e guarda sull'attacco che c'è sulla radio, c'è il foro o il pirolino maschio? Femmina è, ad abitatura. Cosa vuol dire femmina? Tu cosa vedi sulla radio? Un foro? Ah, allora ci vuole l'altro tipo. Non questo che mi è arrivato quello femmina a me, ci vuole il maschietto che si avvita, e comunque appena te lo do ne compro un altro, subito, e sono veramente belli questi. Poi c'è una macchina nera, una macchina scura, non si vede nemmeno il capo, purtroppo vabbè, tu ce l'hai bianca, io grigia, il cavettino che è un RG 174, però io meglio questo che niente, non si dice. Sì, l'importante è che il magnete sia forte, da, perché sennò se ne guarda subito. No, vabbè, il magnete non è che sia forte, ma scusa, l'antenna è talmente minuscola, quando è che si stacca? Ma chi si stacca mai? Questo l'ho detto, io ho usato quella con lo stesso magnete, però lunga. corri, quindi nessun problema, non c'è nella stessa fila. Gava gava. Ai mia, l'incidente è in PMR. Ma perché sto compone, suicidiamo, purtroppo, sai, abbiamo fatto la patologia, piccole cosine ho fatto, dai. Poi si stava bene a casa, francamente, rilassanti. Mi sto riposando che domani di nuovo c'è la tiritera ricomincia. Poi una cosa peggiore, martedì c'ho il muratore in casa. Mamma di tutti, una maledizione sono. E io cosa devono fare questi muratori? Cavolo. Allora, nel bagnetto secondario, c'è solo il gabinetto, no? Pare che ci sia una piccola ferita dalla braga o dal tubo che dal gabinetto va alla braga. Quello bisogna chiarirlo, bisogna vedere. Perché io ho praticamente nel muro c'ho il tubo nuovo, quello arancione, quello di plastica. Però questo tubo di plastica si inserisce un vecchio tubo lì, infatti di quel materiale di disciplina, cos'è amianto, internet, non lo so. Afferma, ascolta lei. Mamma mia, mia zia è. Sono tenute da tutti le zie. Aspida. Mia moglie, cazzo, se ne è scappata col cane, e boh, non si è fatta più vedere. Ehi, Giattona, che c'è freddo, sì. Non freddissimo, ma un po' di freddino c'è. Oh, mamma di tutti. Davvero, ne ho le tasche piene, ma non l'ho detto da adesso, non l'ho detto da secondo giorno, ne ho le tasche piene. E comunque la mia camera sarà incasinata, ma la mia camera non la deve fare. Proprio non voglio che tocchi la mia roba, non voglio che tocchi le mie cose. Perché poi sai come fa, no, comincia a spostare, dice, ma questa roba non si può spostare, no, tutta la roba militare, è simile, deve stare dove è adesso, tutta la roba riguardante quell'altro picchio io, devono rimanere lì. Capito? Quindi c'è cosa faccio, se vuole fare la mia camera, io ce la chiave, chiudo la chiave e non entra nessuno. Avrà voi, se la devo mettere a posto la metto io. Eia, perché quella lì se tocca poi non trovi più nulla. Come mamma, le ha messo a posto la camera, ha spostato tutto. È un casino, qua, guarda, ti dico una cosa, quando anche in camera mia, no, io nel casino bene o male tutto preso. Quando metti a posto in camera mia, come successo in passato, non trovavo più niente. E a me lo dici. Infatti ognuno la camera sua se la deve mettere a posto lui, se no dopo non trovi più nulla. Uiaia. Cazzo, mia moglie se n'è scappata col cane, boh. Abbiamo bisticciato perché voleva scendere e aprire il cancello, cazzo, a quella di vicino e se l'è torna bloccato. Col cazzo ci sono andato. Aspetta che passa il PMR. Ma Roberto è rientrato? E l'ho prese con la stufa, gli ho detto dagli un calcio, vedrai che riparte. Guarda, io piezoelettrica, o come la chiamano, insomma, elettronica, non l'ho mai avuta, libero, non so nemmeno come funziona. Io preferisco quelle a fiamma viva e poi come specchio, no, che fa l'effetto riflessione. Mi piace molto, mi piace molto. Nonno in passato mi ha avuto sempre in casa, ma 30-40 anni fa mi ha detto ancora di tutta kerosene, tutta kerosene, questo, quelle strette alte erano delle piccole torri, kerosene lo prendi da testone, così si chiama, veglia tutta kerosene, che poi nel libro qualcuno dice che funziona la kerosene, gli metti kerosene anziché il liquido il libro e funziona lo stesso. Non mi fido, cioè perché il kerosene è una cosa, la mia va a fisio parafina, ho paura di scompensare qualcosa se ne metto il kerosene. Cosa del tratto? Cazzo, ce l'ho io, una addirittura l'ho regalata, se la sapevo te la lavavo, che è Zibro, sono tutte e due Zibro e funzionano a kerosene, vado a Testuni a pigliarmelo io. Lega, vai Roberto. Attenzione a non fare la prova con quelle elettroniche per metterci il kerosene. State molto attenti che già l'ho fatta io la prova. Appena l'ho comprata, era nuova la stufa, ho detto. Insomma mi ha detto un amico, io uso sempre quella lì a coso. E te sai vedere, in officina ho provato l'aria aperta, in modo per qualunque necessità. Tu vedi cosa ha combinato prima di coso? Questo fumo, questa cosa, questa nebulizzazione di fumo nero. Una cosa allucinante, cosa ti ha accennato là in casa? Ma sai, ed era nuova l'aria aperta, mi ha detto mai più mi fare una cosa del genere. Io sto parlando di quelle normali, vabbè, tu sei capitone di chi si ventilati, non rusoku. Comunque la mia funziona benissimo. Ed è zibro. Però è di quelle normali. Ma quelle con lo schermo dietro sta dicendo che c'è una specie di retina rotonda, un cilindro in retina, quello lì sta dicendo. E quelle lì, quelle normali, e funziona benissimo, non bene no. Addirittura una l'ho regalata l'amica di mia moglie, che era più piccolina, però sempre uguale a quella che ho adesso, che ho qua. Perché ne avevo due, siccome quella piccolina non la utilizzavo, l'ho data a quella lì. L'ho data. Però funzionano benissimo, tutte e due a kerosene le facevo andare. Vabbè, quelle magari hanno un altro tipo di sistema, no, queste sono molto delicate. Adesso infatti sto guardando il filtro, stavo guardando le istruzioni, quando ti esce quel codice dice c'è il filtro intasato, il filtro del carburante, e magari non sta funzionando per quello. Si accende e poi si spegne, domani in officina lo prendo, lo lavo bene e vediamo un pochettino. Che mi sono rotto le scarpe, ogni 10 minuti si spegne. E magari gli è successo qualcosa allo stoppino, boh. Metti lo smartphone in orizzontale, clicchi sulla foto, no? Poi clicchi due volte e vedi. Cioè vedi le differenze, le emissioni della capota e ti hai capito, ne vedi quanto è grande la capota e quanto è grande l'antenino, vedi che piccolo. E hai già visto, no? Nulla, adesso passo un altro codice, è zero, buh, gli ho dato ne appare uno, buh. Sta funzionando, guarda, c'è un appare 6 anni questa roba, un treno, non ha mai dato fastidio, adesso, buh, domani la porto in officina e la provo bene in officina, che qua non mi fido. Allora, io a mettere kerosene pare strano, perché tutte le stanze a kerosene che abbiamo avuto, mi ricordo che kerosene era... cioè sporcava lo stoppino, diventava nero, bisognava pulirlo ogni tot tempo, mentre lo zibro, no, pulito a paraffina, cioè lo stoppino non va mai pulito, è una cosa talmente raffinata che non va pulito lo stoppino, semplicemente si consuma con andare dei mesi, degli anni, si consuma leggermente, poi bisogna, insomma, farlo salire un po' con quella ghiera che c'è, va bene. Ma se uno mette il kerosene che un po' sporca lo stoppino, non so cosa ne c'è. Se lo stoppino si sporca della tuffa al zibro, non so. Io praticamente ho comprato il zibro per usare quel liquido là. Però è vero che costa il doppio il kerosene. A parità di litri costa il doppio. Solo che noi lo usiamo raramente. Perché noi abbiamo le tuffe a gas, no? Quelle portanti, che non lo vedete. Usiamo quella gas, se proprio siamo d'offendo, ma se accendiamo il tuffaggio, lo mettiamo nel corridoio, quando al corridoio ci sono le stanze da letto, una di fronte all'altra. La mettiamo lì, ma nella verità la tipo lo usiamo raramente, usiamo più che quelle a gas. No, io a gas sono contrario alle cose esplosive, a me non mi sono mai piaciuto. Guarda, io non temo niente di elettricità, di benzina, ma il gas, ho visto cose brutte, no, non fa. Vabbè, ci dovrebbero essere in teoria sistemi di sicurezza, no? Se si spegne la fiamma si interrompe l'uscita del gas. Voglia abbandonati. Adesso faccio le fotografie a tutti quegli apparati e me li vendo. Veglia, veglia. E la gira, come va a vendere, cioè, c'è proprio la frequenza, comincia a comparire, vediamo tutto, persone. Mi tengo solo i 2-3.900, mi vendo tutti gli altri. Faccio le foto ben dettagliate, faccio l'annuncio, potrei vendermele, ma qua non c'è mercato, è faccio comando sul mercato, metti le vendite. Quando su internet, oh, va bene. Qua c'è la fame, è un bene. Cioè io se li dovessi vendere sarebbe proprio per mancanza ormai di entusiasmo per la 27, non per necessità, magari. Vabbè, un Inter che accade il 2005 mi dispiacerebbe, ma poi, vabbè, sul 23 più vista la frequenza, o 23 o PMR, o entra in PMR o sul 23, sono molto più attivi loro che non le persone più 10. Telefono per me, scusate un attimo, cosa vuoi ti dico? No problem. Oh, ma è sulla città di Cipriano. Ah, ah. Chi è? La massa varia. Chi è? Non mi riconosci, no? È negativo. E perché? Come mai? Non ti ho riconosciuto con questo apparecchio. Perché mi arrivi anche basso. Ah, basso sono Victor. Ah, cavi tu, cazzo, non ti avevo conosciuto. C'ho problemi di QRM, mi capito? Basso basso ti ascolto di radio. E come mai? Pure sto stando bene. Forse mi devo avvicinare al microfono, così meglio va. Ehi, vai, già ti ascolto adesso. Santiago 9 qualcosa mi sta arrivando. L'osso di radio ti ascoltavo. Ero lontano dal microfono, saluto anche gli amici, dai, mi pare che te, Luca, no, mi sembra di no. L'ho acceso in questo momento, perché ho voluto stare per salutare, ma neanche di particolare, non voglio disturbarvi per carità. Ma no, cosa disturbi? Sai com'è? Ma fai riprendere qualcuno, dai, non ho. L'ho acceso in questo momento, ma non so più neanche chi. Ciao Vittorio, ben entrato. Ma Mattarì, è sentito tramite te che qua lo specchio può fare direttamente e scariscono le batterie. Il ricevitore al minimo. E se ti dei morti a dare la modulare, tu ci vai al 23, tu ci vai. Sentito hai. E va. No, il specchio qua, il specchio, lo specchio può fare. Ripeti. Altarino e Roberto Altarino, vai Vittorio. Ehi, già fa, già Marco, ma che tu dai? Roberto non l'ho sentito, no? Ma comunque volevo dire che questo canale sta sempre spegnendosi, appunto, come dicevi tu prima, io l'ho appena chiesto, ho sentito queste prime parole, mi sono precipitato per dire, no, oh, vabbè, la gente non entra perché non si entusiasma, non è più come una volta, sto qua, a te. Vai, doppio room. E io dai, buonasera a tutti, cordialità, stazione doppio room. Ciao Gianni, ben sentito a te. Ciao Vittorio, ben sentito anche a te, Marco, Natalino, Roberto, tutti quelli che ci sono. Dai, l'ho acceso adesso perché mi stavo guardando a Barbarus, adesso è finito e ho acceso, mi stavo guardando un po' di Ciaramini. Allora, invece dei mogliti, sì, tu. Lui cosa per avere acuti a questa Barbara D'Urso? La verità si dica. Perché è Mara? No, è Mara, no. Barbara si chiama. E anche a Mara Ferriera la verità. Cosa, ma già? Anche a Mara Ferriera. Pure a chissà, due o tre pareti di abitare il costumino, la pantera è giunta in occhi. E anche te, ci scrive pure di corpo. Mi ha beccato un fallo! Troia! Marco, non sei uscito! No, sì, dopo tutto quello che mi fanno passare. Aia, e questo ci deve stare. Lucchetto, mi dici? Sì, boh, non lo so. Dei stanzini ancora sono da portare, ma... Non so se li toccherà quelli, non lo so. La camera mia non si tocca, perché le cose mie me le amministro io. E quando non c'è a posto non trovo più niente, capisci? Io nel caos, un po' nel disordine, trovo tutto. Ma quando arrivo alle risposte a tutto, dalle tracce in tabelle non trovo più niente, per cui la mia camera non si tocca. Ma qualche cosa se la puoi prendere al mercatino delle buci, ti fa qualche soldo pure. Se c'è qualcosa che devi buttare che magari è utile ancora. Mamma mia, come stai uscendo già? E come sto uscendo? C'è questo reverbero che fa impressione. E allora sicuramente l'altro può sentare nel micro. Ebbè, zitto tu che sei influenzato. Vai, ecco qua, ma è traditore, vai. Ma va così, Claudio. Sì, lascialo così già. Probabilmente l'ho usato, solverà. Cavagava. Buonasera comunque. Buonasera, vi sto ascoltando, sono a Roma di Atto e non ho voglia di parlare. Capito? Vi sto ascoltando a quel cuoco, ma c'è anche Vittorio. Buonasera a tutti. Sempre la m'intendici, di una gatta. Vai, sei una ghita che non entra in radio, la scusa è sempre tua zia. Vai sul canale 23 a modulare, vai. Sì, tu non ci credi. Oggi è giornata libera. E poi, come ho già detto agli altri, non gliene frega niente se c'è mal di schiena, capito? Devi contribuire. Cioè, se faticare, devi faticare tu. Io faccio quello che posso, però è una donazione, la vada in casa, capito? È una donazione. E ancora ce n'è da fare. Mamma, insulti, mi leggerà già sul giornale, mi morto. Noi siamo andati a farci un giro oggi, ma aveva un vento. Ho fatto delle belle foto a Porto Torres. No, io stamattina avevo un impegno mio genero che ci aveva l'autoclave bloccata, quindi siamo dovuti andare da Brico, meno male che è aperto, prendere dei raccordi e fare delle modifiche all'autoclave, perché sennò domani non poteva lavorare, quindi stamattina. Infatti mi sono aggravato ancora di più, anche per un freddo, chi so gappannone, una goccia allucinante. Ah, quella della tua faccia si è bloccata. E allora, si è bloccata, e quindi andava a colpo, trasmontata, ripulita, messo il primistop nuovo, e poi ho fatto una modifica praticamente, perché lui la usa con l'acqua del pozzo. L'acqua del pozzo evidentemente se prende qualche residuo o qualcosa aspira, quindi si è bloccato proprio dove c'era l'aspirazione. Allora ho messo la diretta, capito? Però ci volevano dei raccordi, delle cose, c'era un altro amico a prenderle. E vabbè, ma almeno domani può lavorare tranquillo, sto rompi balle, io di domenica mi fate travagliare. E vabbè, quando si può fare un piacere si fa tranquillamente, dai. No, noi siamo andati con un attalino con un altro amico, siamo andati lungomare in Balaia, c'era una questione che sbattevano alle rocce, mi hanno fatto delle belle foto. Ma ieri o stamattina siete andati? Stamattina. Ah, stamattina. No, c'era un vento allucinante. Capito. Lei, un favore, quando si può fare, si fa. Infatti, stasera per la partita, giù, non vieni, tocca con i beri, non tocca con i mani, la Iana non suonare il campanello, tocca con i beri, se no tu partita non abbaiti oggi. Va bene, ha detto, va bene, cosa mangiamo? Arrega, bizzi, vai lì, portati tutto quello che vuoi, basta che tocchi con i beri. Sì Marco, io ti capisco, ma tu pensi che qua io stia vivendo meglio? Eh? Cazzo, non è meglio travagliare. La salima ne va tanetta a tutti i vetri, ma ne va a giamba a tutti i denti, ma ne va a impulsare tutti i muberi, ma ne va a poco il casino. Adesso ti sfrutta. Purtroppo, vabbè, lì ci sono cose ordinarie, qua sono cose straordinarie da fare. No, ma poi c'è altro, Claudio, dai, ansiosa, lasciamo perdere. C'è cose che vorrebbero voglia di buttarla alla scala, però ti sta aiutando, quindi. Cioè, ti aiutano, sto facendo troppo pesare. È una personalità particolare, ma senti paralizzata, chi è Giulio? Ciao. quando sarai in pensione lavorerai più. Come si dice, dove? Fabula, continuate pure, ciao, oggi è la classe, ci sentiamo, ciao Claudio, Marco, Salino e Gian, e senti pure. Ciao Giù, avevi ragione, ci mi gioco a malenni, non mi gioco mai a malato, lavorando, ma è venuto anche in fretta, tutto a becchio, finestre tutto a petto, tutto... c'è il sole, ogni corrente, poi in Siberia, Gesù Maria, c'è una bella, mi ha detto, ma tu dici a casa, non è che ti fai anche il cassettone, ma dai una bella pulita, poi felici di bianco, puro, puro, aspetta l'estate te li faccio, adesso mi metto a morire dal freddo. Sant'Antonio mio, mi prendi già. Scusa, ma mi sa che era meglio continuare a lavorare. Sì, sì, sì, ma non duro io così. Oh, assolutamente. Mi devo impegnare a fare altro, a scissere in casa proprio e tornare all'ora di pranzo. Se no è un casino qua. Mi avviso a venire degli attacchi epilettici. Ciao Giulio. Ciao Giulietta, non posso parlare, lei. Sono pariti qua a casa. Ci sentiamo. Ciao, riprendi. Ciao a tutti. Scusate l'interruzione. Sì, non c'è problema, ci fa sempre piacere. Stai pure all'ascolto, tranquillo, dai. Avanti, Vittorio Volpe. Sì, K, mi avete dato il passaggio, ma stiamo facendo delle cose fine qui. No, no, non è che posso fare il trattamento del mio auto, anch'io. Niente, mi sono tutti qua, c'è anche Giulio che era da tanto, c'è anche Giulio di sentirlo, e Claudio che mi ha presentato poc'anzi, ma non c'è stato il tempo, me lo saluto anche lui, un bravo ragazzo. Siamo una volta senza vedere in verticale, o Claudio. E un giorno, se ci dovessimo, ci prendiamo un caffè, giusto per farci una chiacchieratina. A te ancora. Metto quando vuoi, basta che mi porti fuori da qua. Ma non sei in pensione ancora, eh? Eh sì, purtroppo sì, ma era meglio che mi rimaniva a travagliare. Sì, vabbè, purtroppo la situazione è quella. E quindi bisogna saccompare, quando si sta in famiglia, le cose familiari, bisogna sistemarle in qualche modo. Ho visto, stavo sentendo che hai fatto delle curricine di acquisti per quanto riguarda certi lavori casalinghi, quindi queste cose bisogna fare, c'è una cosa a fare, si annulla. I lavori ordinari non ci sono problemi, Vito, però siccome c'ho ancora i rapportini, me ne è rimasto un blocchetto, no? Ho fatto un accordo con i miei affiliati, faccio il rapportino per i lavori straordinari e tu a fine mese mi paghi, sennò non ho fatto più nulla. E beh, fai bene, ti fai pagare, voglio dire, per carità, va bene. A te Natali. Oh, mia moglie mi sta facendo critici un attimo. Vai già. Lo sta ciucciando la moglie. Ehi, Marco, come immagino sempre tagliare col frustino. Ti dice, una buona schiaffo. Allora. Bugiardo, sei giusto e stai cantando con me. Ah, sta andando con me. Sì, già, cioè, ti aiuta, ma con Astro te lo fa pesare. A questo punto, non vedo l'ora di finire al trattore. Poi, per come ho detto prima, martedì abbiamo i muratori, mamma mia, peggio della festa, insomma. E come mai, Marco, è successo? No, una lieve perdicina nel bagnetto secondario, che c'è solo il gabinetto. Siccome noi, vabbè, abbiamo il tubo con le plastiche, arancione, però sotto c'è la braga vecchia, quella fatta in quel materiale, ma come si chiama il materiale? Oh, internet, non me lo ricordo. Quello che si infila, che si sbatta, lo portando dentro. Ma dove si infila il bunker? Amianto. Bisogna capire quello già. Se nel pezzo che va dal bunker alla colonna o se è proprio alla colonna. Bisogna chiarire questo, bisogna aprire e vedere. Rispettano tutti quelli di quella parte, lo sai. Sì, quello è naturale. Tutti quelli che scaricano lì rispettano tutti. Adesso si vedrà cosa c'è, dai, si vedrà. Io ti facciamo girare, Roberto è rientrato? Sempre i millesimi però Gianni, sempre i millesimi dalla tua parte, se la cola montante dalla tua parte, va ripartito sempre i millesimi lavori, ricordatevelo. Già ce lo ricorda l'amministratore, se ce lo scordiamo. Il totale va diviso fra tutti, no, non lo facciamo i millesimi, il totale va diviso fra tutti quanti. E cosa ti sto dicendo io? I millesimi. In economia si lavora in tabelle millesimali, capito? tabelle millesimali si lavora. Quindi il problema è se uno ha due bagni, uno ha un bagno, allora i millesimi calano. Se tu sei al nono piano rispetto a quello del primo piano, i millesimi calano, capito? Però va sempre ripartito il millesimo. Eh sì, quello sì. Le spese sono divise così, anche per il riscaldamento, per tutto. Infatti c'è sempre un sifone che non mi funziona, devo chiamare il tecnico per farlo vedere. Chiama la zia di Marco che non ti prende niente. Ah, no, ma qui c'è tu stia. Mamma mia, chiama lei, mi faccia tutto il muro. Va bene, meglio non parlare, dai. Vabbè, comunque io non sto entrando, ma qui certe volte mi scioppiato a 100 alle 5, Santiago 0, no, questo dall'altezza, alle 6, Santiago 0, alle 7, Santiago 0. Cioè non sta entrando un granché, a parte me. Ma che non ti gaggi, ma che non ti gaggi. Io ieri è che non sono entrato perché ho festeggiato il compleanno mia figlia, che ero a casa piena di dolcezze, capito? Ma dolcezze, però. Tutte trentenni, 34enni, 35enni, ah, faccio bicarbonato, ma dolcezze, però. Ti ne batti di quattrucci, eh? No, no, non posso dire quando sono arrivato perché sono uscito con mia moglie a fare un giro, poi sono rientrato verso le... veramente mi sono trovato a cena a Pizza Fuori, allora eravamo tutti a cena qua, capito, insomma, cena fredda, tramezzini, di pizzetti, perché questo è stronzato, e campare a lui, che bisogna tutti campare, vino bianco, Coca-Cola aranciata, non è raga da me, capito, non ti dico cosa ho detto appena sono entrato, infatti... Qualcuna di queste si è anche pisciata un solo. Ma quante ne ha fatto Ilaria di anni? 34? No, 30 li ha fatto. Ah, solo, beata lei, io ormai ho un piede nella fossa, capito, quando si arriva a metà degli anni, un piede nella fossa, poi si arriva intorno agli 80 e nella fossa c'entra anche l'altro piede, lo dico sempre io. Sì, vabbè, 30 anni sono già... Se vieni a 30 vuol dire fra un po' di 60, quindi già va bene così, no ma c'erano veramente, vabbè, le conosco, perché qualcuna così a sbatti è sempre venuta qui, ma tutte assieme no, ma Madonna Santa, belle, belle ragazze veramente, belle, mio malloppo, giù giù. Ti ne batti le quattrucci, eh? Già, c'è gente che sta ascoltando, se no la giovati a pezzi, a clienti. Non li conoscono a me perché a volte io mando anche qualche messaggio tramite WhatsApp di mia figlia, la mano stanno chattando, che c'è un gruppo, tutti mi chiamano, signor Claudio, buonasera, signor Claudio qui, signor Claudio, grande giovane di Vidi, ma è entrato io l'Israeliana. Madre di Dio, tutta la casa piena di fagioccio. Tutto il fagiocciato, Dio Maria, qui che ti può venire l'infarto. Sì, cosa, guarda, tutto pisciato, dice, ecco, signor Claudio, si voleva solo lì animare la serata, io, cosa vuoi di tutti, nulla c'è per il viaggio qua, insomma. Ho animato un po', ma sono stato con loro, sì, sono andati via della mezzanotte, forse più di mezzanotte da qua, sono andati tutti pure a ballare. Però vabbè, così era vita, per quello ieri non sono entrato per quello. Oggi non mi sento molto bene perché già ero da ieri, poi stamattina quello mi ha fatto lavorare, c'era una corrente allucinante sul capannone, e si vede che si vede, ma vada oggi e torna da Sassari. Ora Predanieda, quindi via di nuovo trasloccare tutto, staccare la coralla, c'è la qua, mamma, andiamo e fendi, andiamo e fendi. Ah, ne ha due lavaggi, allora, a questo di Sassari non lo stavo usando, adesso di nuovo lì dove c'è Roberto, dove c'era prima l'auto Young, diciamo, attaccato all'osa lì. Ah, ho capito. Ecco, adesso, quindi, da domani anche quello. Dice Cialinesi, ti blocchi, no, vabbè, quindi c'aveva l'autocamera che avevamo prima attaccato, l'ero ricollegata, però non stava tirando perché era mezzo intasata, quindi, siccome dice il pozzo, da un becco non stava tirando, e quindi sicuramente l'ho tirata sulla pompa pulita, eccetera, e allora gli ho attaccato la diretta, ci ha non ci vado a lavorare, va. Mi rimango con il gatto. Vero, Natalì? Se vuoi vedere un caro uno. Allora, vabbè. Un po' di raffreddore, cioè, vedete che ho preso una aspirina, stanotte mi prendo una tifetta. Adesso devo portare carica, se me la devo coprire bene, non la giocare. Mamma mia, ui Gianni mio, cosa combinate le mani? Cosa combinate le mani? C'è una che ha due cavaliettini, questa amica di mia figlia. Come è entrata? La prima trombata ce l'ha fatta con lei. Si è attaccata là. Sì, ma la gamba con Giulio Verfuri, ira di Dio. Che so che è? E che da ridia, ridia, no, ridia, spostato, spostaci, domani si stacca, alla fine l'ho dovuto prendere e chiudere nel, qua in sala radio. In sala radio perché era incazzato nero, meno male che c'è la corrente staccata, perché le prese, io ho due salvavita, uno per le prese, uno siccome era tutto spento, l'accessione delle prese. Ha pigliato a mosci tutta la brescia che vede era un muro là disintegrata. Sì, allucinante, perché l'hai chiuso, mi rispetti a fare. Allora, stamattina ero lì al Brico, ne ho preso una, in quella industriale l'ho sostituita. Meno male non si è mangiato la tappezzeria. Fate scritto due scaffiotti a bocca, vieni qua, guarda cosa hai fatto. E abbassava la testa, solleva la testa, cretino che non si ha, solleva. Allora mi abbaidava, poi la durava abbassare, ma dico, non mi picchiare che non ho fatto niente. Poi ti fanno appena, non ti viene fuori a fare le colpi, non so che così. No, grazie a Dio stesso non gli posso dire nulla, non l'ho mai fatto danni. Solo quando era cucciolo mi avevamo morsiccato il cornicione della porta, ma poi l'ho sistemato, ne ho messo la vigila, l'ho ricostruito e l'ho cominciato a non si nulla. Ma per dire, non me l'ha fatto altro di danni, la verità, non mangia piante, non fa danni di questo genere. Nulla tocca a Filippo, così ha mantenuto la lascio da solo. È perché ho chiuso qua, lui voleva tutto questo ben di Dio, perché quando siamo va ben noi, c'è Mario, adesso un'altra gente lo riconosce, questa ragazza le vede poco. E quindi tra lì me sa quanti mi mangio tutti i mesi. E ha preso quella proprio più grande industriale, no? Meno male ti ripeto che non c'è corrente, perché se c'è la corrente magari si faceva male, tranquillo. Capito? E niente, ma no, cosa le fai? Le ho fatto vedere come l'avevo fatto e basta, poi nulla. Caro Marco, ma ti sto dicendo cose belle. Cose belle, c'era anche la moglie di Alessandro, fratello di Franco, quindi di Renato, che sono vicini a mia figlia. Infatti gli ho detto, no, potevi portare, sì, non ci ho pensato, perché l'aria mi ha detto che c'era tutto, la moglie c'era di roba, ma sai, quest'ora se tu portavi un bel panino di quelli che fa tuo marito, no? Me l'avevi mangiato. Ho sceso la zuppa, perché sono in pigiama, c'è un po' di freddo. C'era mia moglie sempre oggi bombardiati, c'ero stato solo, non avete visto niente bucato a terra, ciupa! Però ma sei grande Claudio, ti puoi fare da padre. Filippo, mica c'è Massimiliano, mi, che viene a picchiarti. Oh Claudio, ma sulla foto WhatsApp, quella foto è quella del cane tuo, no? Di Filippo? Sì, la testa di Filippo, quella sì, l'ho cambiato, ho tolto lo stemma, c'era lo stemma della Juventus, ma l'ho tolto, mi stavo anche sentendo di essere Juventino, qua dai Galabri, per carità, ho giocato il Grottone, mi alle 8:30, vediamo cosa va di Grottone, Napoli ha vinto il culo, un rigore gli hanno dato, il Cagliari non meritava, ieri ci avevamo visto Cagliari-Inter, non meritava di perdere perché ha giocato molto bene, però l'Inter è una corazzata. Ma due rimpalli, purtroppo la palla è così. Va bene ragazzi, io mi vesto, mi preparo, mi copro bene. Vado a portare questo delinquente che mi sta già guardando da lontano. Se ci siete, riprendo dopo, ma sarà molto difficile. Piano piano mi sta mancando anche la voce. Allora io adesso mi mangio qualcosa, mi sono messo la zuppa, vedi troppo cane, non è ho detto, pure ci sta, il cane ci sarebbe dovuto essere, però non sono molto amante, devo dire la verità, tutte le diversare, non mi piacciono gli animali, no, non è cane né gatti. Un gatto viene ogni tanto a mangiare qualche cosa, che lo diamo, però non è mio. Tutto qua. Mi dispiace che non sono amante degli animali, ma è così. Perché il cane di norma dovrebbe fare la guardia, dove abito io, tutti hanno i cani, siamo in due o tre che non ne abbiamo. Ma la guardia sono già io, non ho bisogno di farmi la guardia a un animale. Tutto qua. A te già nuovamente. E vabbè. Dipende sempre dal punto di vista, Vito, a me piacciono molto invece i cani, e chi non ce l'ha non lo può capire quello che dà un cane a una persona, è una cosa che mi manca solo la parola, tutto lì, e vabbè comunque, tu li vedi in un modo diverso, io il cane che ho io fa la guardia ma in una maniera furba, diciamo, non abbaia, capito? Si mette vicino alla porta, si sente il rumore e poi secondo chi li salta addosso, è fatto così. Non abbaia molto, non è un cane che abbaia molto, solo se vede i cani giù magari e basta, non è che sia di quelli che disturbano, eccetera. A me non mi piacciono quei cani che abbaiano molto, che rompono le palle, quelli lì non mi piacciono. Beh, su questo hai ragione, se mi stai dicendo che non abbaia, perché il problema mio è che dove abito io qua, c'è uno che ne ha 23, uno ne ha 5, penso tutti i cacciatori, e la notte abbaiano, e siccome nella zona mia fa un po' d'eco, e quindi tu immagina quando si mettono a abbaiare tutti quanti, è un concerto, e la notte si dorme. L'inverno, vabbè, l'inverno si chiude le finestre, ma l'estate, mi fa da condizionatore l'aria fresca che entra dentro le finestre, e poi purtroppo sto comber, devo chiudere le finestre perché stanno tutta notte abbaiando e non dormi. A lavorare non si vale, ma quando sono venuto a lavorare già da una trentina d'anni che sto sopportando questi cani che abbaiano la notte, non posso purtroppo volerli bene, mi dispiace dire questo, ma è così. E poi quando comincia uno comincia tutti gli altri, se abbaia uno abbaia tutti gli altri, fino a lontano non abbaia tanto, ma con quello di Claudio. Abbaiano solo nel momento, io una volta solo che praticamente è venuto vicino al letto e facevo detto, cosa c'è Teso? Mi ha portato vicino alla finestra, c'è una serrande chiusa e ho alzato le serrande e mi sono affacciato al terrazzo e c'erano due che stavano scassinando una serranda di un negozio che c'è. Quello è un segno buono, ci sono degli animali che riconoscono che c'è un intruso e quindi l'abbaio fa svegliare le cose, ma io qua problemi di, non li ho, il guardiano sono io perché ho capacità di potermi difendere, come Natalino anche, credo, però il cane è necessario se fa un certo tipo di guardia, vuol dire che la guardia deve farla conforme alla canzone, come dicono all'Alghero. Se tu abbai inutilmente perché hai sette o cose del genere, come qui in questa zona, ti lasciano abbandonare questi siti, hanno fame, li abbandonano così, e stanno tutti abbaiando, vorrebbero punirsi i proprietari o i padroni dei cani. I cani purtroppo non hanno colpa, certo, è tutto qua. Beh, se li trattano così, sono i padroni dai criminali. No, ti ripeto, te se non abbaia tantissimo, no? Diciamo che ti avvisa quando... È il bello che c'erano le persiane che erano abbassate, capito? Non si vedeva nulla, io non capisco come cavolo faccio intuire, ho sentito rumori e cose, ho sentito tra cercando di aprire la serranda, poi ho visto se erano arrivati i carabinieri, invece qualcuno li ha chiamati, erano i bizzicati tutti di uno, gli ha detto no, lasciami stare che mio figlio mi sta aspettando, sì sì, già ti trovo a tuo figlio, io, cosa è macchina, via. Questa è una cosa buona, purtroppo, no ma è giusto, purtroppo ci sono questi notturni che fanno queste rapine e vengono pintati, meno male, grazie appunto a questa segnalazione. No, ma l'animale è importante, certo, ma a me lo trovo inutile, non lo so, che adesso sto parlando così, magari un giorno me ne pentirò, però al momento la guardia, sono io già alla guardia per difendermi, tutto qua, non voglio entrare in altro, in altri meriti, ma comunque capisco che è importante, perché la Baio ti segnala, ma questi, tutte le mani che abbiano sono vicino a me, nelle mie circostanze, che sono a 50 metri, a 20 metri, stanno tutta la notte abbaiando, vedono che ne so, un topolino, si mettono a abbaiare, un porcettino, un gatto, e stanno tutta la notte abbaiando, ed è un disastro, purtroppo è una zona alta questa qua, per quanto riguarda, quando sono venuto a abitare io qua in questa zona, ero quasi solo, per dire, eravamo 3 o 4 case, non c'era questo problema qua, quando hanno cominciato a popolarsi, che siamo ormai già 3.500 persone in questa zona, purtroppo tutti c'è questa voler bene all'animale e tutti hanno il cane, però appaiono la notte e chissà perché, non se ne rendono conto che i proprietari non si rendono conto che i cani abbaiano, fanno un disturbano gli altri, perché sono loro, chi non ne ha è chiaro che ne ha disturbato. Lo so, ma probabilmente anche il modo come vengono tenuti, perché il cane magari se lo tieni dentro un recinto, roba del genere, è normale che abbaia, perché si sente chiuso e cose, invece quando è libero è più tranquillo. O chi li lega con la catena, eccetera, eccetera. Io per avere quel cane legato alla catena è meglio non averlo. Così è lasciare l'animale proprio, non godersi la vita, proprio lasciarlo così sempre allo solito punto. Io avevo un amico che ce l'aveva in campagna, i cani legati con la catena, però la catena era scorrevole, c'era praticamente un fil di ferro lunghissimo da un albero all'altro e loro potevano arrivare sino al cancello, dal cancello sino alla casa, capito? Quindi non si avvicinava nessuno e loro però erano legati, capito? E già il fatto di essere legati diceva lasciali liberi, no già che poi questi qui sono cani che ti aggrediscono se li lasci liberi, non puoi lasciarli liberi e ti aggrediscono perché tu li abituati a lasciarli legati. Beh certo, se lasci i legati poi diventano, impazziscono e poi è sempre un animale e non si sa come la prende. Hai visto ad esempio quella donna, io non so se tu l'hai sentito nel giornale, una donna è stata sbranata dal suo cane, addirittura il suo, non era di un altro, perché è andato in finta e è impazzito e purtroppo gli animali sono imprevedibili, no? Ma non per questo, per carità, ci sono degli animali bravi, degli animali che si comportano in un momento anomalo, agiscono, perché è istinto loro per fare questo lavoro. Io per carità non ne ho proprio per questo motivo, però non li condanno, però il problema è che li turbano e molte volte quando sono fastidiosi, immagina se pensate sentire questi animali, 15 continui, e non è uno, due, sono più di 50, è un concerto, e non si dorme, è una notte, due, tre, quattro, è un casotto, purtroppo così, ci si è fatto accombere queste cose qua, pazienza. Sentiamo un attimino cosa ne pensa, perché anche lui è una massa. Io ce l'ho il cane qua in casa, ma questo abbaia solo se c'è il motivo. Capito? Addirittura mi fa capire quando arriva mia moglie, perché fa un abbaio diverso. Io capisco che c'è mia moglie che sta arrivando, ma no, a prendere il bucciare, no, come ti infila un vicolo. Ma è strano, una battuta. Vittorio, che ormai tutti tutelano gli animali, cioè gli animali vengono tutelati a tutti gli effetti, in tutti i modi, però il cittadino, come nel tuo caso, non viene tutelato, non mi sembra giusto. Tanti saluti la tua ragazza, si è rifatto il capanno, tu che eri preoccupato, siamo passati a Patanola stamattina e gli angeli gli hanno fatto di nuovo il capanno come la prima. Per carità, così non se ne va più. Gliel'avete fatte le foto alla maniera? No, ci stava a essere tipo bestemmiano, non capivo cosa stava dicendo, stava dicendo cose a voci quando la stavo guardando. Oh, ma è matta! Però non ce la togliamo più, vedrai che l'estate prossima sarà ancora più. Comunque è vero, uno schifo, non va bene. Va bene, continua a mangiare, dai, riprendete. Ed è fatto bene la copertura che gli hanno fatto. proprio perfetta, tutta legata bene, tutto quanto, poi c'era gli angeli che gliel'hanno fatto. Comunque mi ha dato di saluti, di saluti al mio ragazzo. Vero, Matteo? Hello. Hai capito, visto di chi stiamo parlando? Negativo. Allora, Plattamona, dove c'è la mensolina dove si aspetta il tram, una tipa, una signora si è fatto una specie di campana, no? C'è la panchina sotto lì, sicuri che c'è la panchina, e dorme lì praticamente, c'è già da più di un anno c'è, ed è una di quelle che dell'anonima sequestri che avevano trovato in macchina uno che aveva rapito nel portabagagli, l'avevano arrestata per un bel tempo, poi quando è uscita fuori mi volevano dare un posto in un istituto, se non ci è voluto andare perché toccavi la galera l'ha già fatta e orari non ne vuole, e quindi c'è andata a abitare, io volevo una casa, e c'è andata a abitare in questa mensolina che hanno messo lì a Plattamona per aspettare il tram, dai. Si è fatta coprire tutto con dei teli grandi e dorme lì dentro. Ma si è fatto una gabbia, una specie di nicchia con la panchina. E allora, c'è la tettoia, no, la panchina sotto, e praticamente lì ha messo tutto attorno, presente quello che usiamo in campagna, quei teloni che usiamo in campagna verdi, quelli lì, mi hanno messo gli angel, quelli che aiutano questi disadattati, queste persone così. Ed hanno messo questo telone, erano tutto legato bene, eccetera, eccetera, solo che d'estate che sono a parte che va con un freddo, mi vera oggi, guarda, non si poteva stare, siamo usciti a fare due fotografie, ci siamo subito rientrati in macchina, aveva un freddo da morire, mi sono preso anche il mal di gola, non sarà tale. Ehi, anche io sono così, sono un ranco, non mi senti come sto parlando? Un bel vento c'era, cazzo, un bel vento, e vabbè. Tanto per non stare in casa, che prima vado in casa, siamo andati a farci un giro, ma non è la giornata. Oh, c'era troppo vento già, cazzo. E come mai non la fanno evacuare? Ah, è un Escher, è un Gastolano. Mi pare ci ha fatto 30 anni di galera, una cosa del genere. Adesso è uscita fuori, non sa dove andare, gli volevano dare, mettere in un istituto e non ci è voluto andare. Perché ha detto che lì è come andare in galera, è tornare in un istituto, quindi non gli piace la cosa con le regole, poi non a casa per conto suo e buh. Se non va manco da mangiare, quando passi ti chiede sempre se gli dai qualche cosa. Mi manco l'importa, lo sai perché diciamo che la ragazza, perché gli fanno la pasta asciutta, gliela portano con la madre, capito? Perché gli fa pena. E quindi con Marco va d'accordo. Quale pasta asciutta? Amico, questa era dell'anonima sequestri. Era stata una che aveva partecipato al sequestro Pupo Tromba. Storia un po' antica, no? Piace molto anche Pupo Tromba. Comunque sì, era la tipa, la ragazza del boss della mia sequestra, proprio del capo del gruppo. No, già, noi basta che ne portiamo. Una volta abbiamo portato un panino con la pettante, boh. Che la signora era anche schizzinosa, dice, no, non mortadella, il pane deve essere così, la pettante. No, ti ascolto, lasciala perdere. E ogni tanto mi chiede 100 lire, ma un euro, e quando mi va glielo do. Però la signora fuma, capito? Perché invece non li mette in mano per mangiare i soldi che c'ha per fumare? Capito? Le sigarette non se le leva, non se le leva. Purtroppo questa, capito? Non c'è solo da queste estate, c'era dalla, non da queste estate passate, dalla scorsa estate, capito? Prima era in spiaggia di Aderinti alla rotonda con una tenda, poi le erano distrutte, insomma, non se ne va più. Poi è tutto uno schifo di buste, di cose. Non c'è decoro, capito? È un po' brutta per esempio questa situazione. E ci sono dei cani randagi che si sono avvicini ti morscano pure. Sì, tranne me. Ecco, ai cani li diamo da mangiare, li diamo, portiamo le, come si dice, le, i bocconi, mangimi per cani, barattolo grande. stata punita e quindi in qualche modo ha pagato un po', però l'indone è sempre quello, perché se adesso avrà una certa età, non lo so, ma se è stata condannata per quel reato deve essere punita e deve essere punita fino alla fine, e lì l'avrei fatta evacuare, l'avrei costretta a stare in un luogo migliore di quello. No, tu non puoi fare la barbona, perché noi siamo le forze dell'ordine e ti condurremo in un luogo dove tu puoi stare meglio, se no non, se non ci vuole stare ti costringi a starci. Io secondo me la penso in questa maniera qua. Guarda, nessuno ha avuto il coraggio di mandare via la posta, però se questa peggiore di salute le faranno il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, e per forza la metteranno qualche tutto. Guarda, io mi chiedo come abbia fatto in questi ultimi 2 anni a vivere in inverno in quelle condizioni. Io avevo detto, questa ci muore, questa morirà da freddo, niente, e di fibra anche forte. Come si chiama? Guarda, si chiama Elsa Soggia. Se tu cerchi sulla nostra pagina online, no, con computer, Elsa Soggia, ci sono tutti gli articoli che la riguardano. Sì, sì, quella impresa che quello che hai nominato tu poco fa era un abitante di fronte all'Inse, abitava, perché io lo conoscevo molto bene quell'uomo, passava davanti a dove lavoravo io, ogni mattina prendevo il caffè e qualche volta ci siamo fatte le chiacchierate, quindi quelle purtroppo che stai dicendo tu lo conosco molto bene. Adesso sì, è morto. Però questa donna non l'ho mai sentita nominare per quanto riguarda questa storia qui di Portamona, che abitava in una specie di nicchia lì, eccetera, come stai dicendo tu. Non l'ho mai sentita questa storia qua. Questa però, davvero, se è così, gli avrebbe dovuto fare un ricovero coatto e procurargli un luogo dove stare meglio, e lì dovrebbe accettare, non può fare la barbona, perché la barbona, il barbone gli dà fastidio, o come si dice, psicologicamente è anche come struttura è diversa il suo comportamento da quello che è la norma. A te, ma già. Marco sta pranzando, perché pranza adesso. Ma tu mi hai detto che ne avete portato la pasta una volta con tua madre, Marco, questo non puoi dirlo, ma mi ha detto che ne abbiamo portato la pasta col suo, mi ha detto così. Scusate che mi ha chiamato mamma un attimino. Sì, Vittorio, bene o male, ho capito. Però nessuno ha avuto il coraggio. Erano andati anche gli sbirri del comune a togliere tutta la copertura, forse per costringerla pure a andarsene da lì, niente, è rimasta lì, col freddo che aveva fatto certe volte. Io mi chiedo come non sia morta di broncopolmonite, No, perché quando ci sono queste persone che vengono lasciate, non lasciate, loro vorrebbero essere lasciate in pace, non si fa così, si devono intervenire i direttori dell'ordine o chi è di competenza e sradicarla da lì e condurla in un luogo dove non è fastidiosa, perché lì io credo, secondo me, che è fastidiosa, tutto qui è male. Solo che lei, quando era stata anche a Gorizia, mi pare, prima a Gorizia faceva la stessa vita lì, no? Da quando è riuscita a chiarire era stata anche a Poatest e così. A Gorizia poi alla fine, non lo so, l'hanno fatto gli spesi, alla fine per stare qua, è tornata qua. Solo che lei tende a scappare, anche se solamente non li coprono, un luogo accogliente, lei tende a scappare. Lei mi ha detto specialmente, finché non le danno una casa, non firmano davanti a lei che la casa è sua, bene presente, da lì non se ne va, così ha detto. Ed è una tipa molto determinata, c'è anche una fatta, detto tra noi, c'è una fatta la figlia di Montano. Bene per tutti, no? Non è quello il problema. Il problema è che purtroppo non ha trovato esattamente un'amministrazione comunale o chi è di competenza a farla evacuare. Esattamente lo vogliamo fare in faccia, tanto ormai è combinato quello combinato e quindi la stanno lasciando abbandonata per questo. Ma anche uno l'altro dovrà crollare. Non è che può campare in eterno, Prima poi capitolerà, ma poi dovrà capitolare, no? Non può vivere così. Infatti io già ho preso in casa, cioè da volte mi chiedo come abbiamo fatto a sopravvivere 2 anni. 2 anni in quelle condizioni, condizioni proprio all'addiaccio, eh. Va bene, già ti riprendi che finisco con dolce qua, dai. Tutta la storia sto leggendo, sono gli angeli che gli hanno ricostruito la cosa, la baracca, perché praticamente il vento gliel'aveva buttata via, c'ha 80 anni e ha rifiutato più volte di andare in strutture che la volevano ospitare, addirittura un ragazzo si è preso anche il coso di comprare il telone perché ha visto che era una situazione critica col freddo che ci usi, mamma mia, sono andati di notte a piazzarlo per non farsi imprese, hai capito? È rimasto Lattadino o Vittorio, non c'è nessuno? Ci sono io, ci sono. Comunque già è vera la storia. L'ho letto su internet adesso. Ha 80 anni. E negli anni 80 ha fatto la sfida dell'Oroniva Sequistri. L'hanno trovata addirittura la persona che stavano raffendo dentro il bagagliere della macchina. Cugina di un nostro, di uno che conosciamo noi, prova il cognome. Soggia. Ho capito. No, è Gianni. Gianni, su per giù, quanti anni avrà questa? 80, no, è 80 anni. Ma Soggia, quello che conosciamo noi, la capita. Ehi. Non solo c'è lei, c'è anche la nipote che si chiama lo stesso così, uguale si chiama, ed è una mezzo terrorista questa, quanto ho capito. Allucinante, ho capito, ha già compreso la regola. Comunque questa qua, oggi quando siamo passati da parte a lì, c'era passi i venti, era dicendo cosa, perché stavo guardando. Sì, tu hai da dire a tutti. Solo che chi male fa male a spinti. Come dice il proverbio, quello che tu semini hai poi. E che se vi avvicinate troppo violenta. Che con te non ha fatto? Io mi tenevo a distanza, c'ho le mutande di ferro. Beh, comunque non deve essere brava come persona, rimane sempre quello che uno ha fatto, il carattere rimane sempre quello. Ma ho 80 anni oggi per la ragazzina, Allora, in estate alla rotonda mettono le docce e i bagni chimici, no? Con le cabine chiuse, no? Queste in estate per esempio si può fare una doccia quando non c'è nessuno, fare i bagni, no? Quindi bene o male si dà. Ma alla fine della stagione estiva tolgono i bagni e le docce non so se le chiudano oppure sciacqua gentita. Cioè tu immagini anche la situazione igienica di questa donna. Io come ho detto a Gianni a Natalino ridendo, se tu vuoi nelle partissime io dico che trovi la ricotta muschia. No vabbè, si lavora in qualche modo, adesso non so se ci saranno delle persone che la condurranno nei luoghi per lavarsi, ma questo posto qua mi pare che sia poco ospitale anche. Fai come quella barzelletta che è in pieno agosto, questo qua scendendo a Sassa di Vecchio, vede una donna seduta sullo sgabello, un'anziana, con le gambe larghe, prende e guarda e vede che c'erano i capelli bianchi e sotto però era nera. Cioè, è tornata da Rito e torna a Baità. A un certo punto questa femmina dice, ma cos'è che vai da Baità? Ah, così, fedimi, dice, avete visto un problema, io vedo i peli di sopra bianchi e chi si di sotto dietro, ma come ti mai? Chi sono le pelle che mocca? Che schifo, cosa aveva tutto il coso di mosche? Mamma mia! Mamma mia, questa è la scabrosa proprio. Oh, yeah. capisci che devo andare, dai, ti saluto, devo portare giù il Tyson adesso. Per il Tyson adesso per dire, è vicino a me, seduto, tranquillo, non mi rompe le scatole di nulla. No, è come se non ce l'avessi in casa, Vittù. Ma ripeto, ci sono gli animali bravi, purtroppo non tutti, anche noi non siamo tutti bravi, ci sono i delinquenti, quelli meno delinquenti, quelli bravi, buoni, che non fanno male a nessuno, è la natura. Sì, se questi cani sono cattivi allora. Sai certo. Ma il mio è solo da temere quando viene il bombolaio, infatti lo chiudo perché i bombolai non li può vedere, non capisco perché, forse perché fanno rumore con la bombola, non lo so, o lo vedono con una cosa grossa, sai, i cani abbaiano molto quando vedono cose voluminose, praticamente lo vede con questo bombolone grande, si spaventa, non lo so, e comincia a ringhiare, capito? Allora lo chiudo prima che arrivi il bombolone, infatti prima di entrare mi dice il cane chiuso, sì sì, non si preoccupi. No, secondo me il cane è classista. No, no, no. Abbaia, tu pensa che abbaia da quando arriva col motocano, lo sente già, te ne immagini. Sì, al cane devi portare già. Sì, adesso devo andare, sì. Ti compro bene perché sono con mal di gola. Mi sono preso un tè caldo per vedere se mi faceva bene, invece no. L'altro giorno mi sono fatto la minestrina all'antica, la minestrina di Dani. E mi ha fatto bene, lo sai. Come avevo preso la minestrina, subito mi è passato il mal di gola. Sì, anche io sto rischiando, perché l'altra volta stavo stannotendo e poi finisce la prendere tutto questo mal di testa, alla testa degli occhi, cosa che non mi viene mai detto, ma questo è il primo sintomo di un'influenza, o l'infreddatura. Poi mi sono preso una mega aspirina e l'indomani siamo bene. No, io di ciò che la pena raffreddore, mi raschia la gola e boh. E basta. No, bombolaio. Oh, andiamo a vedere a Mario e Antonio, vabbè qua viene Mario, qui in via Pascoli. Quando vede lui l'ascensore, anda pigliato, tutto il muscigheggio, tutto il gioco, deve appoggiare la bombola, perché se no qualche giorno lo fa strampare. No, ma anche quando c'è gente, lui è così, siccome vede poca gente a casa, allora quando c'è movimento, lui si mette a giocare, capito? Allora, è bravissimo anche fuori, no? Non c'è ne problema. Basta non rompere le scarpe, un cane a 40 kg e si sta granfa, dice che è già la prima volta che è successo. Basta lo lasci tranquillo, lui non viene a romperti le scarpe, capito? E può passare qualsiasi vicino, pure lo tengo sempre a guizzaglio, quindi non me l'ha fatti niente. Allora, è così. I cani sono cani e i cristiani sono cristiani. Ma ci sono cristiani, sono più cani dei cani. Quello senza un bel dubbio. Però vedi, io mi trovo in una certa situazione che non ne ho proprio per questo motivo, per il problema degli abbai, che ci sono quelli che abbaiano, ne ho visto anche uno qui proprio da casa a casa che non si mette a abbaiare, poi dà fastidio darlo via, che passione, però purtroppo le cose stanno così. Guarda, sono convinto che neanche quello di Gianni, certo se ti metti dietro la porta di casa lui percepisce e viene a baia, ma dentro casa è come che non ci sia, Vittor, se no stai pur certo che l'avrei già mandato via o non ne avrei preso. Un cane molto tranquillo, molto educato, molto da piccolino, io è arrivato qua che aveva già 8 mesi, quindi adesso ne ha 5 anni. Non si è mai azzardato neanche a fare la pipì dentro casa, capito? Quando voleva uscire andava vicino alla porta, vicino al guinzaglio, io capivo, e continuo a fare così, capito? Però adesso diventano i più mandroni, perché adesso io sono rientrato, nel frattempo io mi stavo rimettendo in sesto per casa, lui è andato e si è coricato sotto la televisione nel suo lettino, capito? Rimane lì, non si muove da lì, non gli frega niente. Va bene, gli anni le 8 sono già portato letto. No, sta andando adesso, dai, vi saluto, stavo aspettando per salutarvi e sta andando, dai. Ci sentiamo, dai, buon continuo questo e grazie per il consiglio, dai, ciao ciao a tutti. Ciao, ciao, già, vai Marco. Sì, ciao Gianni, dai, buona passeggiata. Vai Vittorio, no, Natalino, dai. Ciao, già. buona passeggiata. Comunque Filippo a me mi si vuole patrombare, ma che dice si dica. Perché lui tutti i uomini fa così. Quindi c'è vado, c'è in casa da tua, mi tromba, così. Sì, sicuramente, anche perché sa che si amico in Natalino, quindi c'è questo è cuoco, ma ne come quello là. Sì, già ce ne sono canito, ma tu li passetti vedono con una gamba, magari sei seduto nella sedia, c'è la gamba avanti, ci mettono sulla gamba e cominciano. Ma dice che è una cosa di affetto, boh. Sì, una cosa di affetto intanto. E così, no, ma Filippo non lo fa spesso. Assolutamente. L'Italia, quando è sciolto, se vede uno che aveva molta confidenza, allora si aggranfa, capisci? Come andata io, ci avrei venuto, eravamo giù, come l'ha visto arrivare in macchina, che ha aperto lo sportello, già si era in treno di Trento, e lui piace molto uscire in macchina. Poi l'ha visto andata io, coccolava, lo faceva, allora gli si è attaccato un po' alla gamba, capito? Beh, anche il cane ha bisogno di affetto. Ma cosa hai detto? Che il cane ha ciuffato? Mamma, mi ero lontano, cosa ha detto? Che il tuo cane ha ciuffato? O ancora una stagione? No, il mio non ha ciuffato, non è orecchione. Sarà quello di Natalino. No, forse quello di Gianni, ho sentito che ho tratto un altro cane, forse un femmina, forse ha ciuffato, dai. Adesso, vabbè, Gianni è uscito, me lo dirà dopo. Quello di Gianni è... Sì, già sì. Si coccolano tra i cani, il mio non è che ne ha molti amici, non è che con cani grandi non c'è Cristo di farlo, con qualche uno i canoni per qua sotto che è un maremmano abbastanza grande, però si sono conosciuti subito appena io l'ho portato qua, capite? Ma gli altri quindi di strada no, o io tengo le distanze perché non voglio creare problemi. Una volta ci ho provato e mi ha attaccato la lecce a uno, allora ho detto boh boh, basta così. Ne approfitto per salutare Gianni anche se è andato via. Ho avuto un richiamo, quindi dovrò mollare. Ti saluto, dai, ciao Marco e Natalina. Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime. Purtroppo devo sganciare. Tutto ok. Ciao Vittorio, quando ci conti anche ci fa piacere. Ciao alle prossime, buon fine domenica, a domani, vai Natalino. Ciao Vittorio, alle prossime, là. Vai. Ciao Vittorio, alle prossime, buonanotte, buon proseguimento di serata. Così, e tu già mangiato? Io sì, poc'anzi ho mangiato, pranzo. Anzi me ne stavo dimenticando, io non ho mai pane con vino. Ho detto di mangiare, che abbiamo mangiato le 6:30, poi erano già le 6:30, tu quando ho mangiato ancora. Vabbè dai, ho fatto tutto, guarda così, sapendo che non c'era nessuno invasore in casa, mi giù, ho fatto le mie cose tranquille, ho fatto qualche piatto, il fornello, sai quando stai tranquillo, invece quando siete una personalità particolare, quindi fa passare la voglia proprio di... Vabbè dai, non voglio... Anzi, siamo anche già del baracchino per ascoltare, se mi fa bene. Io sono lui, se lui si appoggia. Così mi digereda. Minimo, attento che quella può averlo veramente il baracchino. No, non lo può vedere, perché secondo lei è una perdita di tempo stare a parlare al baracchino, capito? Perché lui sta sempre lavorando per me. Non può vedere, sta facendo un suo baracchino. Una volta mi sono messo a voce. Io non sono il baracchino dalla mattina a sera, hai capito? La voce mi ha fatto saltare, mi ha fatto perdere il staff. Sempre ne parla male come se stessi mattina, pomeriggio, sarà notte a fare. E ci siamo due ore, che non so dalle 6 alle 8, dalle 7 alle 2:30. Non lo può vedere, non lo può vedere. Quindi anche voi, secondo lei, siete dei perdi tempo, capito che parlate a baracchino. Per il tempo è da non più palle. Sì, te l'ho detto, è una personalità particolare. Vabbè. oratori pure Matteo. E così abbiamo fatto un play. Mamma mia, non è proprio che sono andato a mettere le trappiace. Per carità. No, io... No, fortunatamente non volevo fare niente. Fortunatamente. Mi sono cambiato i rubinetti del bagno a poco. Rubinetti di arresto, li ho messi tutti in uno, li ho comprati al bricco. Chiuso l'acqua qua dentro. Me li ho cambiati io. Manca solo quello della vasca che è nuovo. Quello con il miscelatore, gli altri li ho cambiati tutti. Ma sfasciare niente. No, no, no, lascia vedere. Eia, no, vabbè, ma qua diciamo che secondo banco, dove c'è solo il cesto, non c'è nella bandina, solo il gabinettino secondario. Lì è lasciato proprio rustico, mi alla mare prego. Non è una cosa che abbiamo curato. E quindi possono anche aprire, salto non mi interessa. Va bene. Guardate, ma lo risolva, perché se c'è una perdita è giusto che si risolva, si mancherebbe. E poi si paga la gente, chi ha voluto la casa grande e pagato, chi ha la casa piccola paga, perché uguali, appartamenti non sono tutti uguali, non sono tutti uguali, c'è qualcuno che ha più... E già l'hai capito, là. Ah, quindi la tua è metratura più modesta. Per esempio, noi ci siamo al piano di attacco, abbiamo il terrazzino, lo chiamo terrazzino, il balcone, lo chiamo, dalla parte interna, ma non dalla parte esterna, sulla strada. Invece già dal primo piano in poi hanno il terrazzino dalla parte interna e anche sulla strada, che pagano di più, più metratura. Per esempio questo lì sotto, sotto a me, no? Non ha. Finisce il suo appartamento dove c'è il bagno, non ha le camere mie, cioè non ha né la camera mia né quella di mamma, non ha le camere da letto che abbiamo, è piccolo quello sotto, quindi paga un po' meno. Vabbè, non ha balcone, ma ha un giardino, vabbè, insomma, che si arrangiano loro, non si arrangiano loro. Non male che questo amministratore è più determinato, capito? Anche l'altro a me andava bene, solo che l'hanno criticato e non era di non lo so, vabbè, punti di vista sono, dai. Vabbè, però sei così, è così. Ah, tu sei primo sottopiano, così è. Oh, ho appena detto piano rialzato, piano rialzato. Fai 9 gradini e sei arrivato, piano rialzato. E va bene, sì. Terrazzino interno, ma non sulla strada. Sulla strada abbiamo solo il finestre. Catalina, riprendi un po' più, dai. Io sto mangiando. Beh, allora ti travestisci. Vai, vai, con cuori. Aspetta che vengo lì, ti tiro una pugnalata al campanello, così impari. A te, a quel Luca Puggio. Ciao Luca. Vai, vai, con cuori. Ciao a tutti, ciao. Siamo arrivati a casa. Eia, eia. Vai, Claudio. Ah, per rimane che sei uscito, ci arrivi dopo. Siamo su te, e allora? Quindi ti hai fatto tutta una tirata così. Allora, sono venuto io alle 10 qua e poi sono andato fuori a dormire. Sono rientrato stamattina alle 10 qua di nuovo e poi sono andato via a mezzogiorno e sono rientrato adesso. Sì, già va bene, già va bene, già va bene. Sì, dai, io non so. Domani sono senza voce, ragazzi, sono le 8:10 passate. Io vi saluto, chiudo tutto, vado a cenare e poi in cucetta al calduccio, dai. Ci sentiamo, ciao Luca, ciao Natalino, Marco, chiunque fosse in ascolto, dai. Riprendi tu, Marco, fai girare per me, correnti, ciao a tutti. Eia, pigliati il Vicks Vaporub, però si mette sul petto e le esalazioni sono molto toniche, anche c'è anche da bere, capito? Molto curativo questo. Me lo ricordo quando raffreddore con la... così. Non metteva nonna sul petto quando ero bambino. E ha anche un bel profumo, non so se lo conosci. Sì, sì, sì, vabbè, no, ma io roba curativa non ne prendo, prendo tu che c'è un curatone. Sì, è curativo, va bene, anziché pigliare altre fare altre cose, è meglio questo. Bene, mamma mia, mamma si deve vaccinare, non so se è lunedì o giovedì, prima che mi ammalio di influenza, così almeno mi si salva e... Io non mi vaccino, no? Bene, io so che mi faccio l'influenza, tanto. Lo sai, ma me anziano mi dovessi vaccinare. Fagli mogliare un microfono. Io lo so. Io ne ha fatto, ne ha fatto. No, ne voglio fare ogni anno. Va bene, dai. Non sono raffreddore, un po' di roccine, basta adesso. Prendo qualcosa a calda e poi me ne vado a letto. Guardo la televisione a letto, ci faccio niente, piedi. Ciao ragazzi, a domani c'è coincido, dai. Buonanotte a tutti, vai Luca. Ah, non sai che male così, la faccia di mancare gli uvi, ciao dai, buonanotte a domani. Domani la faccia del Mattarello. E allora, avanti Marco. Ehi, va bene, ciao Claudio, sta chiudendo, dai. Ci sentiamo. Guarda, domani c'è, dopo domani c'è, forse mercoledì ci sentiamo. Facciamo due giorni travaglio e un giorno in pausa. Io un giorno di travaglio e due di pausa. Vabbè, dai, poi finiremo questi lavoretti, finiremo, dai. E finalmente sarò libero di entrare quando vuoi. Ok, ciao, buonanotte, ciao. Ciao, buonanotte. Ah, piuttosto, Antonello Pomponi, ci sei la scorta, Antonello? Claudio? Se n'è già andato. Allora. Io è poco veloce con lo... Ah, con la... con tassino o no? Ehi, caro Natalino. Io volevo provare a fare la... come dice Vittore, mi volevo mettere proiezio in mano, senza microfono, però non vale, dice che comunque deve essere un ricevitore pubblico, non c'entra che mi dica il microfono, perché quello era bello per la macchina, per ascoltare, molto bello, sensibile, più sensibile del ricevitore, ovviamente. Ecco. Poi ogni tanto, no, basta fare quelli di topolino. Marco, poi leggi un WhatsApp. Sì, ce l'ho qua il cellulare, lì. Leggi. Ma devo leggere. Dimmi cosa devo fare. Ti ho mandato un messaggio, visualizza o no? Ehi, aspetta che ancora qua non è arrivato. Fermo. Fa uno. Eccolo, eccolo. Dammi tempo, Eia! Cazzo, ho mangiato troppo questa stanotte, tripa ho mangiato, poi abbiamo fatto la torta di mele, anzi ho fatto, buona, un burro è uscito veramente, buona, buona, buona, voglio mangiare un truppo, c'è un truppo pieno, pieno. E beh, tu, niente. No, prova. No, no, ero alla finestra. Niente, niente, ce l'ho mai sentito lì. No, sai cos'è, siccome stanno facendo pulizie qua, l'antenna del... l'antenna esterna ho messo il cavo fuori in poche parole. Posso usare solo il portatile. Niente, ero alla finestra, mi ho chiamato più volte, ma niente. Vabbè, dai. È colpa di Natalino che blocca le onde radio. Che è con la voce da Bicchi Torse? Beh, non mi sente lui, dai, Natalino, dai, aspetta. Non ha la batteria scarica. Eia. Contate che sono col gommino, perché il cavo della antenna fuori l'ho messo fuori. Dovevamo sgombrare un po' di roba e l'ho messo fuori. Poi quando finirà questo incubo, ripristinerò tutto, dai. Io macchina, la bobina è pronta, tutto è pronto, però non ha giocato nulla. Ma come la devi fare? Bisogna togliere quella da energia, mettere quella. Sì, devi chiamare di nuovo le persone che ti hanno aiutato, è un casino, mi interessa. Vabbè, se ce la fate. È per quello che non ho toccato niente. Si farà in estate. Oh, ci sento, Martino va a portare il cane, dai, 5 minuti. Ehi, dunque, già siamo qua. Vediamo che ore sono. Allora, vabbè, il telegiornale è andato, dai. Importante che mi guardi il film. Ci sarà qualcosa alle 9. Non faccio il giornale da TV, quindi mi devo basare. Così devo fare il carrellato. Comunque è bello Natale questo di nove, ha una bella ricezione, una bella tradizione e poi la l'antenna più lunga di tutti i PMR, mi segue. E io sai come sto ricevendo un ricevitore? Con l'antennino su di serie, questo Uniden da tavolo ha un antennino da 50 cm. Sto ascoltando con questo. Prossima volta che vado lontano, mi porto alle 16.09 per ascoltare la radiatori, sempre che entrino perché tra digitale e tutto. Caspita. Sono giorni, certe volte, almeno allora che ascolto io non c'è proprio nessuno. I radiatori, voi o pazienza, certo che io mi do 300 euro non li spendo, ma che non ce li ho, non li spendo per pigliare un ricevitore digitale, magari avendoli, se fossi ricco, quantomeno per l'estate, magari lo prenderei. Ma sai, chi è? Ah no, attenzione, Antonello Pomponio, sei in radio? Ma questo Pomponio non c'è mai in radio, eh? Oggi è domenica, magari è andato in giro. Caro Natalino, così è. Visto là che si è ripopolata la frequenza, ma... Certo, perché sono entrato io. Che bastardo. Più siamo, più ne entriamo, capito? Quando sono due persone, magari uno, vabbè, c'è il capito, ma comunque non vedo l'ora di usare su strada per l'antenino, lo voglio usare proprio scendo, andando, io porto sotto casa giustamente, ma lo voglio provare in strada proprio. Poi se siamo fortunati riceve anche il WhatsApp. Caspita, se ho un quarto d'onda WhatsApp c'è proprio una frazione d'onda, boh, non so quanto sarà. Perché 17.5 la lunghezza per il PMR. Sì, a quello è 14, però c'è la bobina, no, a volta. A metà testa c'è quella bobina, quindi dovrebbe essere... appena, te l'ho detto, appena ti rispino, quando potrò riprendere il Campuzzaro, posso in macchina controllare il stagionale. Oh, Natalino. C'era mia moglie che stava parlando, che mi sopravvivava. La presente digitale che ha Pomponio, no? Ce l'ho io e lui. Sì, lo so. Adesso io e il mio me l'attacco al culo, capito? Non lo so cosa è successo, non funziona più, non si sente niente. Cioè, magari non c'è tra lui, no? Però ho finito, non funziona bene. Ah, la carità, sono debuttato, era meglio non perdere. Tanto. Non crede, diciamo, chissà che cosa. Era giusto per sperimentare. E magari ha toccato qualcosa nel menu. No, non c'è nel menu. Diciamo, volume e canali, boh. Non capisco come si possa essere in programmato con Vittorio, quindi ci manda l'assistenza e si vede se è salvato. Si sa proprio in quale diavolo c'è sceso. Il solito da amico sarà. È sempre da amico. E se metto Giuseppe sarà. Sì, vabbè, però quello diventa uomo. Cioè. Vabbè, c'è capito. Diventa lobby del bene questo. E non è un bel lobby. Speriamo che entri un altro giorno, perché domani dopo domani di nuovo a capo, siamo ancora un'invasione di campo, un'invasione di campo. Oh, sta bene con la stufa a Natale, oggi c'è la stufa a gas, più è. Sì, anche io, avevo messo già quella a Creo. Perché avevo freddo, prima di mangiare, non c'è il freddo, non si chiama, ho malato, allora provvedo. Invece, ti ho detto oggi, provvediamo solo quando c'è molto freddo. Camere da letto sono in fondo al corridoio e una di fronte all'altra, lo mettiamo lì in corridoio e grosso modo scaldando un po' l'una e l'altra camera da letto, lo usiamo molto raramente, anche perché costa troppo il carburante, sono dei costi, cioè almeno fatelo pagare come il kerosene, no, non il doppio. E costa quasi il doppio, anche senza quasi. È un furto. Infatti, la mia, quella che so io, se la tua è normale, funziona anche a kerosene, mi fa. Sì, è normale, però più piccola. La tua è più larga, la mia è meno larga. Mi pare che abbia 3 kg o quasi. La tua sarà forse anche 3 meglio, forse anche 4. Non te lo ricordo. Non lo so, comunque la mia scalda a me è quella piccola che avevo a che lo senti, cioè il libro sempre era, no? Come questa qui, era più piccola, l'ho regalata all'amica di mia moglie, che poverina a cazzo era un stufa elettrico e le ramazzendi la corrente. Per carità, le stufa elettrica, le stufette scaldano solo se te la attacchi alle gambe e non scaldano l'aria, capito? Questa, almeno questa gas, scaldano anche l'aria, piano piano. Oh, quelle elettriche sono mangiacciose, capito? Quelle elettriche servono, vanno bene. Negli Stati Uniti, dove hanno le centrali a energia nucleare, e lì costa pochissimo la corrente. Ma qua è... per carità. Beh, l'Italia non ha voluto nucleare, per stare tranquilli non ha voluto nucleare, capito? Beh, pazienza. Ma non hai visto cosa è successo a Chernobyl? Vabbè, ma quelle erano tecnologie obsolete. Le moderne centrali, come ce l'hanno in Germania, in Stati Uniti, dove, sono più moderne. Quelle di Chernobyl erano di tipo più antiquato, molto antiquato. Purtroppo bisognava farlo prima, anni 70, cosa le fai adesso? Stanno passando di moda anche le centrali nucleari adesso, cosa le fai in Italia? Comunque ricordati gli ecologisti animalisti, che sono poi sono tutti sempre loro, non vogliono per esempio più Monsanto, sai, vogliono il carbone, vogliono come si chiama, la cosa biomasse, non vogliono il gas, non vogliono niente. Secondo gli ambientalisti noi dovremmo tornare al Medioevo. Che vadano a farsi sottere. Addirittura non volevano nemmeno le paleoliche, perché dice che uccidevano i moscerini, uccidevano gli insetti. Ma non da cagare. Che mi la putti assai per i moscerini. Studiamo. Ma stiamo arrivando a un livello proprio. Mi ricordo il referendum nucleare no grazie, ti ricordi? C'era una faccina del sole che rideva, c'era scritto nucleare no grazie. E vabbè, pazienza. fornire di cose alternativa. Sì, ma quando sento cose del genere, no, non vogliono le biomasse, non vogliono il carbone, non vogliono il gas, cazzo volete voi? Con cosa vi scaldate l'inverno? Non lo so. E purtroppo gli ambientalisti sono come lì, sono dei rompipalle come gli animalisti, capito? Anzi cazzo, anzi quello, sì, veniva nel cazzo quando veniva chi andava a cazzo con i tamburi a rompermi i coglioni di ricudi roba di fusilati, ti dovevi vedere fuggenti. Per esempio a me non piace la caccia, no, per, a me non piace uscire al mare, però è giusto che chi vuole usufruire di questo diritto può usufruire. Non sono quelli che dicono vietare la caccia. A me non piace, a qualcuno piace, giusto che sia così. No, no, quelli no, assolutamente, vanno con i tamburi, con i fischietti a disturbare i cacciatori. Cazzo, non ti danno fischiato all'ardo salato, alle chiappe. Cazzo! Ci sono dei pantaloni e anche la pelle. Tu immagina il lardo salato quando hai quella cucina che è bollente. Frigge le chiappe. Sì, e le brucia proprio. E poi cazzo, magari a sale grosso, mica, così quando entra in contatto col sangue, lo sai come si. Un razzo fuggente. Adesso no, girano più diritti degli animali di noi, capito? Che ne so, c'è un cane che va a morticare, no? Un cane minaccioso ovviamente, va a morticare, tu gli spari, via più di cielo, assassino ti chiamo, ma quindi mi dovevo fare ammazzare io, no, dal cane, mi dovevo far stradare dal cane io per fare i contenti, ma non finati. E purtroppo, poi da quando c'è questa, con i capelli rossi al governo, che è la portavoce degli animalisti, come si chiama? Capelli lisci e rossi, mannaggia, non mi dire il nome. Quella è una animalista sfegatata. Ma la bambilla sta dicendo. Ehi. Sì, chi sarà pure ragazza? Bambilla, una portarella, altro che animali. Sì. Allora vabbè. Bambilla, esatto. Non mi viene mai il cognome. Quella amica di Silvio, cazzo, siccome animalista le piacciono gli uccelli, capito? Anche il Cefali, anche l'ambiente ittico, capito, il Cefali. Quei capitoni. Che madrelingua che siamo, comunque sì, non mi piacciono, a me in genere non piacciono tutte le forme di estremismo. Come gli animalisti sfegattati, gli ambientalisti sfegattati. Secondo loro dovremmo vivere come il medioevo, no? Senza energia, elettrica, cosa ne so. Per carità. Ma forse la prenderanno anche con le centrali idroelettriche, capito? Che fanno corrente elettrica tramite il fiume che scorre. Ce la prenderanno anche con quelle. Con che cosa se la devi imbigliare? Io per esempio mi sono accorto che non ce n'era più selvaggino, non sono più andato a caccia. L'unica cosa che ci sono i cinghiali e quelli fanno anche danno ed è giusto che li ammazzino. Sì, perché a periodi dice che c'è un'invasione proprio di cinghiali. Sia in Sardegna sia altri posti, un'invasione, dice che li vedevi anche, entravano anche in città, no? Entravano anche a mangiare dal calcio, dalle mosche dei calcioni. E poi possono essere pericolosi per le persone, capito? Perché magari c'è una mamma con i cuccioli, vede una persona passare e si avventa. Quello sì, Sono pericoloso. Il cinghiale è pericoloso, ma la sorte. E poi non è così lento come il maiale, il cinghiale è veloce e buzzinoso. Guarda, ho visto un video su YouTube dove questo cacciatore aveva sparato il cinghiale, l'ha mancato. Allora, il cacciatore era su un pendio ripido, cioè saliva a fatica, era un pendio ripido. Beh, il cinghiale, come l'ha visto, si era arrampicato. Stava arrampicando finché all'ultimo momento il cacciatore i maschi che hanno le zanne, quelli di catta, uno o due cani hanno aperto là sotto, brum, e la briani. Se vedevi questi cani con gli intestini fuori, poveracci. Eia, e anche all'uomo, all'uomo gli arriva la seccia delle palle. Caccia con fantetti di chi squarcia, chi apre in due, mamma mia, per carità, che brutta bestia. Molto al cinghiale di fare lì. Magari non è piccoli, e sai, piccoli c'è anche bellissimo, però il cinghiale è adulto. Sono pericolosi, già lo so. Comunque scappa se vede l'uomo, perché essendo selvatico è pericoloso anche quando è ferito il cinghiale. Eppure Natalia, hanno fatto vedere i cinghiali, sai che dalla, diciamo, dalla macchia entravano, entravano in città. Provi a vedere la macchina passando e i cinghiali lì mangiando dalle buste. Cioè, come si stanno vedendo, si stanno accorgendo i cinghiali che molti uomini sono inoffensivi, allora li ignorano, anziché scappare li ignorano, capito? E ma quando trovano quello con l'uvusini lì? Quello che c'ho io mi va bene per il cinghiale. Poi ho visto anche palle elicoidali. Una palla unica che ha una scanalatura elicoidale, quelle danno fanno? Ah, ti credo che fase ne danno, come quelle che c'ho io, ma non hai visto quelle che c'ho io? Non ho capito quale stai dicendo, io. Sì, sì, quelle, quelle, se non sbaglio come spari ruotano pure, fa l'effetto strappano. Eia, se ti sto dicendo a 50 metri, cazzo, ho colpito il bersaglio, ha giocato roba di vucco. Eia. Comunque Natali, francamente a me questi che in Sardegna o dove insomma sparano a canna di gatta, a cinghiali, io li ritengo molto ma molto pericolosi. Perché capita il proiettile a canna di gatta viaggia un bel, fa chilometri e chilometri. Metti che spari un po' in alto. Il proiettile fa un bel chilometri, può ammazzare gente lontana a chilometri. Boh. Pericoloso del normale, dai. Sì, no, non tanto, perché quello, rigatto non rimbalza, invece è pericoloso, insomma, quelle che c'ho io, quelle sono pericolose, se trovano il duro rimbalzano puzzinose. Ma se trovi una rocciatura, se la becchi a un'angolazione, una certa angolazione, anche il proiettile rimbalza quello a canna di gatta. Certo, se lo becchi proprio un pieno muro, un pieno granito, vabbè. E già, dopo di tanto c'è un incidente di caccia, neanche sulla nuova dice, medio incidente di caccia. Perché non lo so, vabbè, comunque è una cosa un po' pericolosa. Incidenti di caccia ce n'è sempre, ogni anno ce n'è. Hanno sparato a me, l'amico ha sparato in faccia a mio nipote. Ma l'ha ammazzato? No, no, a pallini erano, erano a tutti, deve essere. Anche a te hanno sparato? Eh beh, se erano a conigli, quelli sparavano in basso, a bagassa loro. E dove ti hanno beccato? Ah, mi ha portato via un pezzo del giubbotto della cacciatora. Ah, però non è entrato, meno male. Eia. Sì, però quando cacciano i cinghiali usano palle. Mamma mia. Se per caso spari dietro c'è altro cacciatore, mamma mia. Ci sono anche incidenti mortali, giustamente. Non dovrebbero esserci, ma ci sono. È perché uno non si deve muovere dalla posta, deve sparare solo nella direzione che ti dice il capocaccia. È pericoloso per quello. Uno dalla posta non si deve muovere, deve rimanere lì. Perché ognuno deve sapere dove sei, capito? Venga. Poi un'altra cosa, ho visto cacciatori, ovviamente mimetici, no? E ho visto anche dei cacciatori che avevano i giubbotti fluorescenti. Ma quando è che si usano i giubbotti fluorescenti? Quando vai a cinghiale? A Cacciagos questo è obbligatorio, adesso è legge, devi avere indumenti per farti vedere proprio per il pericolo che c'è. Infatti non ci sono mai voluto andare a caccia al cinghiale. Per evitare di spararsi uno con l'altro? E allora, stai scherzando, quelli che abbiamo preso, i cinghiali tutti da soli, senza fare battuta. Uno o due ne aveva piccata una cara di cinghiali in campagna mia. A me piacerebbe avere, cioè a me piacerebbe avere la caccia, ma andare a sparare battaglia, barattoli, ma non ad animali. Ecco, il tirarvi a tempo è già una bella cosa. Non so se sia facile, francamente, ti l'abbia detto, però è uno sport alternativo alla caccia, anche perché a me farebbe impressione sfumare gli animali, sfogliarli oppure togliere la pelle, è una cosa che mi fa ribrezzo. Non potrei mai sfogliare un animale, vada via. Babbo era bravo mi facendo quel lavoro. No, io mi sento male. Per esempio questo risorto è cacciatore, no? Dovevo tornare con tutta la cacciagione, no? Scegli, vari, non so cosa posso. E quindi la moglie o lui, non lo so, li spiumavano, li aprivano, no? Io mi sento male. Comunque, ma la favola, quello che mi è rimasto, è che non sono mai andato a fare le battute, boh. No, è pericoloso. Ma io lo uso al poligono, lì il fucile da caccia, perché quello è la caccia, quello che c'ho io. Solo che a pompa c'ha la canna corta, quello va bene al cinghiale, perché fa il massimo danno col minimo beneficio. Sì. Per esempio, a Florina c'è... Lo sai che non mi ricordo nemmeno che eravamo andati a caccia noi, è passato troppo tempo, o almeno a tirare a barattoli, non mi ricordo. Anche a Florina c'è un ragazzo, figlio di Polis, va bene, un amico di nonno, siamo andati a sparare a barattoli, roba del genere. E lui lo beccava anche al volo, pensa, io l'ho mancato anche da fermo perché non sapevo esattamente come dove dava il colpo, perché io ho messo la punta al mirino proprio a metà del barattolo e invece poi è andato basso, capito? O alto, non lo so se è andato alto o basso, perché io una volta che so come funziona il mirino, no? Dove dà il colpo, allora mi regolo. E il fucile da caccia è diverso, io sparavo senza mirare, per esempio, perché ero abituato. Senza chiudere l'occhio e prendere la mira. E certe volte non c'è tempo di prendere la mira, bisogna sparare. Ehi, devi coprire con la canna il bersaglio, boom, e sparare. Però devi essere abituato per fare centro. Ehi, per il tiro al piantello già non c'è posto, no? E anche l'automatico. Io ho visto certi automatici, mi, di quelli a mollone. Cazzo, bellissimi, a 120 euro l'uno me li volevano dare. Tu lo conosci lo Spazio 15? Ehi, a quello del caricatore c'ho anche sparato. Ehi, io la prima volta che ho visto lo Spazio 15, no? Aveva una forma grande, ma lo sai che c'è un calato? Però aveva la canna troppo grossa, ho detto, ma questo non è. Col caricatore sotto, sì, ed era proprio lo Spazio 15. E sembrava sempre difficile. Forma un po' vagamente difficile mettere le torre, invece un calibro 12 mi pare semi-auto, no? Perché poi addirittura in America, non so dove, mi pare che hanno fatto i fucili di calibro 12 a raffica, mi pare c'è un tamburo, no? Tu prendi, fa tu, fare la camera alla contraerea. Sì, vabbè. Quello Spazio 15 è bellissimo a spararci, perché è come quel Beretta che avevo io. Praticamente è a recupero di gas e non ha rinculo, non ha molto rinculo. Invece se spari col fucile a pompa è come che spari con una doppietta. E in più ha più rinculo perché ha la canna corta il mio, quindi ha ancora più rinculo. È 50% alzo un centimetro la canna che c'è il fucile mio, è per fare danno, Brooke. Da una bella full specchio, se c'hai, se c'è un fucile a pompa per esempio, e anziché cartucce normali spara le mani, o meno, ogni volta la spalla che ti dà. Quelle mani, quelle lunghe 76 mm, le mani. Se spari a palla, ogni volta che ti dà. E gli altri dà la botta con quelle a 28 grammi, che sono le più leggere. Qualche giorno fatto riandiamo, se lo posso provare, e ti posso vedere a 28 grammi la botta che fa. Questo non è come quel bel effetto che voglio, con quello lì sparato una mano io. Ehi, meglio, è come quello di quel ragazzo, faceva il suo morto, sulla sola in apertura che il tocco, sì, pam, pam, bello, bello. Cos'era? Beretta 300... 302, bellissimo quel fucile era, che poi l'ha fatto su misura da me, c'aveva il calcio al corpo, capito? Come io lo imbracciavo era già pronto come fucile, capito? E che fine aveva fatto poi? L'avevi venduto? Eia! Beh, comunque adesso ci saranno fucili equivalenti, no? Se mi automatici. Sì, cioè ci sarà un sacco da spolvere, tutte le maglie, tutti i prezzi. Mi ricordo che sul catalogo Staccarmi o altri fucili, no? Mi ricordo. C'erano le doppiette sovrapposte, tutti incisi lì, con lo calcio, no, come si chiama la... Non il calcio, la parte di metallo, no? Non è ricatto, tutto inciso a mano, prezzo tipo 40 era 40 milioni di lire, inizio anni 90, con roba forse da Visconti, 40 milioni di lire, o con le rifiniture in oro, inciso in oro, cazzo di altro. E la bascola, stavi dicendo tu. Ehi, già è così, se tu pensi il sovrapposto che c'aveva mio cugino sportivo solo, e la casa non lo potevi portare che era un peccato, 12 milioni costava allora, un terazzi. Ehia, sì, ma quando ho letto in quel catalogo, uno costava proprio tutto ricamato, vabbè ricamato, si è capito già dico, no? Con i riporti in oro, 40 milioni di lire, proprio roba da cicchi. Sarà stato un Rizzini magari, qualche Perazzi, un Holland e Holland, quelli sono fantastici, fa doppiette sovrapposti quello lì, Holland e Holland, tutti incisi, cazzo, opere d'arte. Allora, il nonno di mio nonno, ci va col fucile sotto la giacca nelle campagne. Anzi, stiamo parlando degli inizi del secolo, anzi fine 800. C'aveva una mini doppietta, canne fortissime, l'ho fatta così, a calcio corto, con i canni esterni era addirittura. Dice che era stato minacciato da un bandito, sai, all'epoca c'era il banditismo, proprio di vecchio stampo, perché il bandito gli dava la colpa che lui aveva parlato con i carabinieri, insomma, l'aveva minacciato. Allora dal giorno il nonno, il mio nonno usciva con questa doppietta sotto la giacca, sai quelle giacche pesanti di lana, no? Su cani esterne, una figata. Così mi aveva detto il nonno. Io lo so chi ce l'ha una doppietta così, solo che non è a lufara, è normale la doppietta, ma di quelle antiche, cazzo. Quella già è bella. E poi ne ho visto uno di doppietta, fatta a mano. E sai quanto costerebbe? C'ha delle canne grosse un millimetro, se non di più pure. Tu la dovevi vedere questa doppietta, lucida, fatta a mano, Ce l'aveva un signore vecchio che faceva la guardia lì per salire nella campagna mia, no? Dove ci sono quei due pini alti. Detto, qui se tu vai a comprarla, il valore è come che tu ti compri una casa. Vai tu. E poi ho visto comparire, no? Prima non c'era, prima c'erano automatici, doppiette soprattutto. Ho visto comparire sempre in quegli anni là, anni 90, su quei cataloghi, quella specie di doppietta a tre canne, cioè tre canne, c'aveva due canne sopra e una sotto, e quindi c'aveva tre colpi. Poi vabbè, l'hanno copiata e l'hanno fatta svelta, tipo una canna sopra e due sotto, capito? Quella bestia. Perché una era rigata, capitola. No, no, no, no, erano tre canne lisce, proprio tre canne calibro 12. Poi ho visto, sì, quelle cose composte che c'hanno, tipo una canna liscia, una rigata, addirittura tre canne, tre calibri diversi. No, a me piaceva proprio quello, tre canne calibro 12. E un combinato era quello. Certo che aveva un bel peggio, tre canne, poi era piccolo e lungo, quindi... Perfetto, va bene. Comunque a me piacciono gli automatici. L'automatico è bello, bla bla, è un po' con il culo. Poi non devi stare al mare, come la pompa. Molto comodo, diciamo, va. E solo quelli a recupero di gas, perché ci sono quei Breda a mollone che rinculo ne vanno di più di quello a recupero di gas. Me li volevano dare a 120 euro l'uno, ce n'era uno con la bascula in acciaio, bello cazzo, lucido, ma tu dovevi lì. Quello di Via Grazia di lei, dammi. Non so quanti ne aveva di quei Breda lì. Ah, c'erano anche fucili semiauto a mollone, così è. Cioè la molla faceva tutto il lavoro. Ma erano i più vecchi, vero? E con la canna rinculante sono, c'è un mollone, no? Belli cazzo sono, ti sono contenti che... Per esempio il mio cugino aveva uno di quelli a 5 della Browning, bellissimo, col calcio all'inglese, tu lo dovevi vedere. Calcio all'inglese non ce l'ho presente, magari l'ho visto ma non riesco a associare il nome. Vabbè, a me piaceva lo Spa 12 perché era, funzionava in molti vetri, sia semiauto sia pompa, c'avevo quel calcio forato pieghevole, no, si spiegava sopra, una bella bestia, ma poi alla fine non ho mai voluto portogliarmi, troppe spese, ma la macchina lo fa fare, pure. Se tu lo usi in poligono col porto d'armi a uso sportivo non ne paghi tasse, capito? È il porto d'armi da caccia che si paga un mezzina ogni anno. Sì, quello sì, ho sentito che costa abbastanza. Costa abbastanza. Spiegami una cosa. Allora, quando volevo avere un porto d'armi genetico anche per comprare tipo i fucchiati di Ciani, no? Pasquale diceva, fidati, ti fai il porto d'armi per il tuo volo. Ecco, spiegami questa cosa, che tipi di porti d'armi sono? Uno è caccia, uno difesa, l'altro cos'è? No, spiegamelo tu, non c'ho presente. Il tiro al volo è quello che ho io, quello ad uso sportivo. E poi pigliato turisto che vuoi. Invece per caccia deve avere fucili, cioè è diverso là. Poi cosa esiste di porto d'arma? Sempre per difesa personale, no? È quello per difesa personale che non te ne daranno mai. Sì, non lo danno nessuno, se non proprio... Dice che quelli per i privati, no? In tot anni sono calati da 59.000 a 19.000 e tanti. Capito? Sono diminuiti, non ne danno più a nessuno adesso. A meno che proprio non sia una personalità, non so, pochi invece di soldi, è un casino. Un casino, vogliono disarmare il cittadino a tutti i costi, eh? E hanno fatto leggi restrittive in Europa, in tutta Europa, figurati, questi bastardi. se c'era Vanni Cubito, che era ragioniere lui di questa ditta, no? E trasportava soldi, e ce l'aveva lui il porto d'armi da difesa, infatti la pistola la portava appresso, c'aveva un bel revolver, c'aveva 38 special, e praticamente l'avevano licenziato da questa ditta perché era calato il lavoro, e lui se n'era andato in un'altra ditta. Beh, lo sai che siccome era cambiato il fatturato gli hanno tolto il porto d'armi. Oh, siccome guadagnava meno allora niente porto d'armi. Ehi, tolto, gliel'hanno tolto, infatti lui c'ha quello sportivo e quello da caccia, perché lui va a caccia, no? Però c'ha anche quello sportivo per poter portare la pistola al poligono, cioè il poligono, campo di tiro, al poligono non ci va nessuno, anche quelli che sono istruttori del campo del poligono vengono da noi, perché lì cazzo non ti diverti, al poligono è praticamente tiro accademico, mi. Sì, mi ricordo che ci andava quella con l'amico di famiglia, guardia girata, a rinnovarsi la porto d'armi, a rinnovarsi, c'erano anche forse più giù urbani, un po' di giovani, ma proprio così, insomma, dai. Sì, voi sicuramente vi divertite molto molto di più. E facciamo le gare e tutto, anche se io faccio quello operativo, perché c'è anche quello sportivo, capito? Lì fanno solo gare e poi così i vecchi ti rendi duri dividi, cazzo, sono dei fulmini, però anche quelli del tiro dinamico sportivo, molti vengono da noi e fanno quello operativo. Più bello quello per la TT, insegnano praticamente quello che insegnano alle forze dell'ordine, però tu essendo allenato sei meglio di quelli delle forze dell'ordine, perché quelli lì sono poco allenati e a meno che non vadano di loro spontanea volontà a fare tiro dinamico operativo, se no loro sparano pochissimo alle forze dell'ordine e c'è gente che non sa tenere neanche la pistola in mano, non la sa usare più. Veglia, sì, certe persone non sono proprio portate. Mamma mia. Bene, che ore ci sono fatte? Non lo d'orologio, ma questa continua, ovviamente dovevo spostarsi da qua, ci sono qui. Adesso vediamo l'orario, sono le 9:05. Bene, andate quasi quasi, eh? Attacco la TV e mi guardo qualcosa, ok? E anche io, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao Marco, grazie della chiacchierata e buon proseguo. Scusate, io stavo facendo una cosettina qua, mi stavo ascoltando. Vabbè, dai, ci sentiamo domani allora, se Dio vuole. Andata lì, e beh, quel case, bene fa. Piccolino, Sì, qua comunque se sei bravo, ti costruisci un alimentatore grosso e te lo usi per farti un alimentatore per le radio, boh. Vabbè, dai, a domani, ciao, buonanotte. Ciao Gian. Ciao Luca, ciao, buonanotte, adesso va bene, ok, dai, guarda, domani o domani sono sotto torto, quindi lunedì, martedì, forse mercoledì potrò entrare. Salvo i tre mesi, salvo che non facciamo tre giorni e poi pausa, ok? Ciao Natali, ciao, buonanotte. Salute il bambino. Aspetta, ciao. Ciao Marco, ciao. Ciao Natali, ciao.